I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Simone Pizzi e Italian Podcast Network presentano Stefano Biggio, Giuseppe Sasu, Il Distruggitore, Simone Andreozzi, con la partecipazione straordinaria di Luigi Marrone, Dietrologia Videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, ebbene sì, sono tornato, sembrava che non ci stavo più, ma perché sono sparito un po' da un po' di trasmissioni, ma chi se ne frega, alla fine l'importante è ritornare. E questa è una puntata importante, perché è una puntata che abbiamo sponsorizzato a destra e a manca. Avete sentito lo spot, insomma, andare su tutti i podcast videoludici di IPN, e si intitola 2X08, la nobile arte del doppiaggio, che è una puntata che ha voluto fortemente e ha costruito, diciamo, dal punto di vista autorale, il nostro carissimo amico, tra virgolette, l'ultimo arrivato, Carlo Burigana. Ciao a tutti, buonasera a tutti, è un piacere, esatto, io... Questa è quella che sentite stasera, è farina del mio sacco, come si dice, quindi sono molto emozionato. Sacco e Vanzetti? Anche. Anche Vanzina. Pure Vanzina, sì, sì. Beh, d'altronde, indirettamente, insomma, c'è di tutto dentro questa puntata. E dicevamo, sì, puntata sul doppiaggio, perché ovviamente l'abbiamo già detto, insomma, in svariate occasioni, Carlo ha comunque a che fare, visto, insomma, la sua professione, di cui poi ovviamente ci parlerà anche all'interno della puntata, anche di Striscio, e perché anche grazie ad essa, insomma, siamo poi riusciti a raggiungere anche, ci sono anche dei contributi, poi vabbè, ne parliamo dopo senza spoilerare, noi spoileriamo tutto ma non spoileriamo noi stessi. Insieme a me ovviamente c'è il mio compagno di viaggio, che è il mio come posso dire, è mio fratello in questa puntata, in questa trasmissione, perché l'abbiamo voluta insieme, l'abbiamo costruita insieme, perché con il suo Retrocast coproduce questa trasmissione, Stefano Biggio. Previously on DVL. Certo, oramai con sto microfono tu. Dico solo così. Salve amici. Buonasera, bentrovati, bentornati. Oggi spero di essere più in forma rispetto all'ultima volta, dove ero un po' caput, ma... Niente. Ma è la droga, quella è la droga. Sì, la droga, la birra, lo spa, la dura vita dello spacciatore, diciamo, ecco. Le solite cose. Ma perfetto. Ecco, previously on DVL. Non dimentichiamoci l'ultimo, il tuo pigmalione, lo definirei. Quello che sta qua. Quello che sta lì, esatto, un ominide. Un omide. Anche detto? Marco Gualdi. Anche detto? Marco Gualdi. Anche andiamo avanti per tutta la serata. Se vuoi lo dico anch'io, Marco Gualdi. Aspetta, facciamo una cosa. Dillo tu mentre ridoppia Carlo. Ok, allora lo sto dicendo. 1, 2, 3, vai Carlo. 1, 2, 3. Marco Gualdi. Era quasi in sync. Quasi in sync. Posso dire che era quasi in sync. Anche alla cieca. Alla cieca, sì. Va bene, allora diamo prima i riferimenti e poi entriamo nella ciccia, che sono ovviamente il nostro sito di riferimento, che è www.dietrologiavideoludica.it, che è ovviamente il sito nel quale potete trovare tutte le nostre puntate. Una volta avevamo anche iniziato a scriverci articoli, poi ci siamo schifati. Vi ricordiamo che abbiamo anche un canale video su YouTube, Dietrologia Videoludica, che è un canale affiliato a allgamesitalia.net, e anche qui pubblicavamo i video anche sul, anche sul sito, ma pure lì ci siamo schifati. Il sito proprio lo schifiamo, ce la tiriamo. Però abbiamo... siamo troppo fighi e ce la tiriamo. Sì, è vero. Insomma, se vuoi vedere un nostro video, non c'è bisogno, cioè te lo vai a cercare. Mi chiami, ti mando un mio video, vieni a casa, ti parlo di persona, non c'è problema. Esatto, cioè, esatto. Stiamo pubblicando insomma i nostri fantastici video. Anche Carlo, lo avete visto insomma nelle ultime apparizioni, è entrato a pieno titolo a far parte del team romano di DVL, e quindi conseguentemente è più facile che appaia insomma in questi video di commentary, dove parliamo bene e male a secondo delle situazioni di vari videogiochi. Quindi cercateci su YouTube, andate Dietrologia Videoludica, stessa cosa su Facebook e G+. E poi c'è anche le prossime settimane, io vorrei dire questo, ci saranno dei video molto interessanti. Se c'è un po' di roba in preparazione, ragazzi, che tra il bene e il male, tutto il male. Però c'è stato lo speciale su Fallout, bisogna dire. Su Fallout, ma già uscito lo speciale. È uscito. Quindi. È vero. Il Twitter, Stefano. Twitter è Dietro Gio Video Ludo. Dietro Gio Video Ludo. Non è difficile, dai. No, lo so, ma io sai che non mi imparerò mai. La nostra email è ovviamente dietrologiavideoludica@gmail.com. E poi, ovviamente, questa trasmissione, come abbiamo detto, è coprodotta insieme a Retrocast e fa parte della grande famiglia di IPN. A questo punto entriamo subito nel vivo della trasmissione con il prologo, l'incipit, che ovviamente è, l'abbiamo nominato, imparare l'italiano. E sono imparato l'italiano come... Non lo so, tu parli sopra mentre lui ti fa le pernacchie. No, sopra. Non so pernacchie. Ma forse è lui che fa le pernacchie mentre io gli parlo sopra. No, quella è la sigla. Vabbè, facciamo partire lo stacco. Vadi. Cerchiamo di essere un po' più radiofonici. Vadi. Questa qua era lo stacco per te, Pizzi, era per te. No, ma ci manca, imparare l'italiano ancora ci manca, quindi mi toccherà butto giù qualsiasi cosa. Carlo, tu che sei usare Audacity, facci un... Sì. Faccio uno stacchetto, dai. No, se no riusiamo quella vecchia che hai fatto, anche se non c'era tanto piaciuta, cioè, piuttosto che non c'è niente. Era orribile, però, diciamo. Era un po' orribile, era un po' lunga. Vabbè, la tagliamo. Benissimo, entriamo nel tema serio della trasmissione, perché comunque questa è una puntata che può sembrare poco pregna, ma in realtà è una puntata pregna, appunto, e si parla di doppiaggio dal punto di vista tecnico, e il doppiaggio ovviamente legato ai videogiochi. Ne abbiamo già parlato, anche se in maniera scherzosa, per quanto riguarda ovviamente i peggiori doppiaggi della storia. Abbiamo voluto anche provare a accennare i migliori doppiaggi della storia, ma poi in realtà eravamo andati troppo lunghi già a parlare di quelli più brutti. E visto e considerato che il doppiaggio italiano dei videogiochi è stato insomma storicamente una nota dolente, abbiamo pensato, e ha pensato Carlo ovviamente, magari di spiegarci anche un po' le meccaniche, come funziona, come non funziona, e poi riflettere su quello che sono le nostre preferenze rispetto a questo tipo di discorso, soprattutto in questa fase di grande evoluzione del videogioco, che sta diventando veramente la forma di intrattenimento più universale. Prima di ovviamente entrare nel vivo, Stefano, gli tocca. Sì. Tu sai, Stefano, che hai avuto un sostituto grandissimo la scorsa puntata. Sì. Che ha tenuto proprio banco, ha portato proprio la bandiera in maniera... È riuscito purtroppo a scrivere anche, a leggere anche se gli abbiamo messo la scritta in bianco addirittura. Lui sì. Telepaticamente. Io l'avevo detto fin dall'inizio, devi sapere, Stefano, che purtroppo io mi accostavo con molta umiltà a questa cosa della lettura, infatti diciamo i risultati sono stati abbastanza, come dire, no, ma non c'è problema, deludenti, magari anche tu, quindi... devi imparare a leggere come devo imparare io, quindi no, ma soprattutto il pubblico in realtà non si è neanche mai reso conto, insomma, di tutto questo. Però è stato divertente, perché è stata la prova del fuoco di Carlo, che oramai è a pieno titolo un dietrologico a tutti gli effetti. Però vabbè, adesso allora potrà leggere al contrario il prossimo testo, esatto, la prossima volta. Però perché oggi c'è Stefano, e questo è storicamente il momento di Stefano. Bene, allora amici, io mi sono preparato molto per questo testo, ho ripassato, ho fatto sul mio sussidiario le letterine, quindi mi sento pronto, forse, va bene. Ok, iniziamo quindi. Allora, ed eccoci di nuovo qui a parlare di doppiaggio, ma stavolta lo facciamo con quel pizzico di autorealità in più che ci contraddistingue. Dopo quasi 15 anni di duro lavoro svolto tra doppiaggio, sound design e mix, il nostro Carlo Burigana ci prende per mano e ci conduce attraverso le tortuose strade, costellate di battute, rifacimenti e incisioni a vuoto, che fanno del doppiaggio dei videogames un grande mestiere mai compreso fino in fondo. Come si effettua un doppiaggio? Chi ci lavora e come? Sono alcune delle domande che troveranno forse una risposta esauriente in questo episodio di Dietrologia Videoludica, che propone per l'occasione anche un'intervista esclusiva ad Alberto Angrisano, attore, doppiatore e appassionatissimo di videogame. Continuate a seguirci e buon ascolto. Io pensavo che ad una certa avresti detto attore / doppiatore. No, non è leggero. Potevo anche leggere dopo, si lancia la discussione vera e propria. Quindi noi ascolteremo durante, insomma, la parte centrale di questa puntata, questa intervista ad Angrisano, che è attore, doppiatore, che è, secondo quello che ha detto Stefano Bicchi, attore, doppiatore, nonché appassionato di videogame, quindi cade, casca fagiolo. Esatto. Ok, vai Stefano, sei tu che conduci le danze, anche perché io sono malaticcio e già è tanto che riesco ad estrizzecare della voce. Se è registrato con la TBC, puoi registrare come vuoi. Ma quella è vera mentale. Quella è vera. Comunque, la discussione principale sul doppiaggio, come avrete forse intuito dal fatto che abbiamo ripetuto questa parola circa 8000 volte. Quindi, come si fa il doppiaggio? Una carrellata sui processi lavorativi e sulle figure professionali del doppiaggio. Quindi, poi, cosa c'è di differente tra la tecnica e la parte artistica, come nelle differenze tra un film, una serie TV e un videogioco, e pregi, difetti e differenze tra quella che è il doppiaggio nell'industria videoludica, nella zona romana e nella zona milanese. Però per fare tutto ciò io passo ovviamente la parola a Carlo, perché noi diciamo che non ne sappiamo molto, ecco, per non utilizzare una terminologia più scurrile. Esatto. Carlo, quindi. Allora, grazie della parola. Prego. Ne ha facoltà. Sì. Allora, vabbè, che dire? Innanzitutto, vabbè, io sono convinto che voi tutti sappiate, insomma, quella che è la filosofia a base del doppiaggio, cioè ovvero la possibilità di sostituire una voce, diciamo, in una lingua, farla praticamente in un'altra lingua rispettandone quelle che sono in qualche modo la cifra stilistica e tutto il discorso, insomma, di sync di labiale, di interpretazione, di intonazione della voce, quanto più possibile ovviamente. Ovviamente questo è un incipit importante per andare un po' a capire quello che è il doppiaggio proprio come mestiere, come in qualche modo anche patrimonio artistico che abbiamo qui in Italia. E non tutti sanno che ci sono più industrie del doppiaggio in Italia, cioè l'industria romana, appunto, come citavi tu prima Stefano, e l'industria milanese, torinese, e credo almeno un altro paio di regioni in Italia facciano doppiaggio, però diciamo che le più importanti sono sicuramente queste e anche le più storiche. Sì, sì, assolutamente. Insomma, sono tutte, diciamo, industrie che nascono verso la metà degli anni, insomma, il dopoguerra, per cui la parte, quella appunto del doppiaggio milanese, si è consolidato quando è nato Fininvest, insomma, quando sono nate le reti private e sono nate appunto le telenovelas in Italia, i cartoni animati, tutto quel tipo di materiale lì. E quindi lì è nato, diciamo, il doppiaggio a Milano come industria proprio. E però, diciamo, ecco, focalizziamoci un attimo su come si fa il doppiaggio, appunto, che è il primo punto di discussione. Allora, per effettuare un doppiaggio, innanzitutto noi abbiamo bisogno di determinate figure professionali che sono alla base proprio del mestiere del doppiaggio, e che a volte magari non c'entrano direttamente con il mestiere di chi sta al microfono e legge la battuta e la interpreta. Per esempio, si ha bisogno di un adattatore, di un dialoghista, che appunto adatta i dialoghi dalla lingua in cui viene importato il film, il telefilm, il videogioco, quello che volete voi, alla lingua italiana in cui appunto deve essere poi doppiato. C'è bisogno in più di un direttore del doppiaggio, che è una sorta di, possiamo definirlo una sorta di direttore d'orchestra, che è una figura che è un doppiatore a sua volta e che ha il compito di dirigere appunto il doppiatore che invece sta nella sala di incisione e parla al microfono. Il direttore del doppiaggio sta nella sala regia accanto al fonico, il tecnico del suono che gestisce tutta la parte tecnica, e ovviamente l'attore doppiatore, che dicevo prima appunto, che sta in sala di incisione al microfono, e un assistente di doppiaggio che sta assieme a lui appunto nella sala di incisione, e attraverso delle cuffie davanti a un monitor suo vede, diciamo, scandisce quelli che sono i tempi della battuta, cioè vede se la battuta magari è andata fuori sync, se c'è qualche imperfezione tecnica, insomma è una sorta di supervisore di tutto il lavoro di doppiaggio, e poi è colui che ufficializzerà la bontà o meno della battuta che è stata incisa. Per cui diciamo queste sono un po' le figure proprio alla base del mestiere. Questo per ogni attore? O cioè per ogni doppiatore? Oppure per ogni doppiatore, se c'è una sessione, per esempio, che ne so, c'è comunque una scena con tre voci, per ogni voce c'è un assistente, oppure l'assistente è comunque unico per tutti quanti? L'assistente è unico per tutti, okay. Ovviamente, insomma, non, vabbè, ovviamente poi ci sono assistenti che magari si danno il cambio, non è, sono un po' come anche come i tecnici audio, fondamentalmente non è che c'è lo stesso tecnico audio per sempre, insomma può capitare che magari un film lo seguano più tecnici di volta in volta, per cui questo è fondamentalmente. E per doppiare un film, diciamo, un film tipo, c'è appunto tutta la, diciamo, la pre-produzione, possiamo definirla, cioè la traduzione e l'adattamento ai dialoghi dall'inglese, ipotizzando insomma che si tratti appunto di un film inglese, non è detto, può essere un film in qualunque lingua, all'italiano. Dopodiché si fa una scelta di voci, quindi si fanno i provini degli attori che potrebbero doppiare, dei doppiatori appunto che potrebbero doppiare gli attori presenti sulla pellicola, sul film. Dopodiché c'è una suddivisione in rulli e in anelli di tutto quello che è il materiale audiovisivo che si ha in possesso. Il film viene proprio smontato in rulli e in anelli. L'anello è un po' un termine un po' arcaico del doppiaggio, come la stessa incisione, si usa ancora il termine incisione, nonostante adesso ovviamente non si incide più niente, perché prima il doppiaggio negli anni 30, quando è nato, si incideva su un disco di cera lacca, insomma era tutto un processo molto molto artigianale, per cui essendo comunque il doppiaggio un mestiere ancora che contempla ancora questa parte molto artigianale del, proprio come mestiere, ancora vengono usati questi termini che sono, certo. Per cui dopodiché appunto, dopo questa suddivisione, c'è una domanda, certo, dimmi. Quando si fanno i provini per la scelta delle voci, si fanno in riferimento alla somiglianza della voce o l'adattamento della voce al viso, per esempio alla corporeità del personaggio? Secondo, guarda, lì ci sono scuole di pensiero differenti, perché ad esempio ti potrei rispondere sì e no. Sì e no, perché a volte basta quello, nel senso, a volte basta il voce volto, magari ecco, tu fai un provino su tre, su un attore, su tre doppiatori differenti. In qualche modo comunque tu, direttore del doppiaggio, ovviamente vedi che il doppiatore Caio sta meglio di tutti, perché è quello che convince più di tutti, nonostante magari non abbia necessariamente una voce similare a quella dell'attore originale, però lo scegli perché secondo te è quello che riesce a trasmettere maggiormente le emozioni che l'attore in video trasmette sul film. Non è così invece per quello che riguarda la direzione americana, perché alcuni provini vengono scelti direttamente dall'America, per esempio, infatti questo sapevo, per questo sì, storicamente leggenda vuole, non solo leggenda, è proprio una verità, insomma, che Kubrick addirittura venisse in Italia per seguire perissequamente i turni di doppiaggio dei suoi film, e questa è una cosa meravigliosa. Ad esempio c'è Ridley Scott, per esempio, lui è molto esigente sui provini, su chi deve fare cosa sui film che fa, insomma. Lì però gli americani, cioè io dico Ridley Scott come posso dire qualunque altro regista che vuole essere interpellato per il cast italiano dei suoi film, lì diciamo che la scelta è un po' più meccanica, lì viene in qualche modo pesata, lo dico proprio in termini molto spartani, pesata la voce dell'attore americano con quella del doppiatore, su quella che sarà poi, potrebbe essere il suo doppiatore italiano. Viene analizzata a livello di spettrografico e la voce che più si avvicina graficamente viene scelta. Ma questa è proprio da americani, sta cosa. E questa è una cosa molto, ovviamente, abbastanza criticata da alcuni, perché ovviamente magari può andar bene per loro, perché per via, insomma, magari loro culturalmente hanno, poi lo vediamo, insomma, è uno dei punti di discussione. Loro in effetti, cioè, l'italiano non è detto neanche che lo capiscano bene, cioè, magari loro sentono il suono, non quello. Indubbiamente, sì, sì, loro sentono il suono, però ci suona bene, però magari è un po', sì, un po' troppo, cioè, influisce già, quello. No, ma dico, magari sì, questo un po' meccanica, ovviamente. Questo ovviamente non è sempre un male, perché non vengono mai fatte delle scelte troppo campate in aria, insomma, non è una scelta un po', la definirei molto meccanica, sì, sicuramente, magari è un po' fredda, visto che viene quasi lasciata un po' al macchinario, no? In qualche modo tu analizzi due forme d'onda, vedi se assomigliano, ok, questa è quella giusta. Beh, d'altronde ci sono anche due ragioni principali. Una, che comunque gli americani non hanno una scuola di doppiaggio così come magari in Europa, in particolare in Italia. No, infatti. E due, perché comunque gli americani amano proprio il concetto di standardizzazione, cioè per loro sì, deve essere tutto fatto in una determinata maniera, loro come dicono loro. Loro è completamente differente, diciamo, il loro mestiere del doppiaggio è completamente differente a come lo intendiamo noi. Poi più tardi ci arriviamo, questo sarà okay, uno certo, dei punti certo, che vorrei ovviamente approfittare di esplicare, di parlarvi, esatto. E quindi eravamo rimasti appunto alla suddivisione del materiale audiovisivo, dopodiché si passa alla vera e propria, insomma, fase di doppiaggio, quindi doppiatore in sala, viene diretto dal direttore del doppiaggio e via dicendo. Dopodiché ci sono appunto tutte quelle che sono le fasi di post produzione, ovvero la sincronizzazione dei dialoghi e infine il mix del film del caso. E quindi questo è. Bisogna fare un ulteriore, diciamo, distinguo del mestiere del doppiaggio. Il mestiere del doppiaggio in sé, se ci pensate un attimo, comprende tanti mestieri. Ad esempio, prima che esistesse il doppiaggio, si lavorava con la voce, si lavorava in modo diverso. Il doppiatore che magari adesso è doppiatore, prima magari poteva essere uno speaker o un annunciatore radio televisivo, quindi quello è un mestiere ancora in corso, tutto sommato ancora in evoluzione, in voga, esatto, del doppiaggio, una sorta di mestiere collaterale. Ovviamente il doppiatore è in qualche modo, lo dice appunto il termine stesso, quello che fa, proprio che pratica il mestiere del doppiaggio nudo e crudo. Il direttore del doppiaggio, come dicevo prima, il direttore del doppiaggio è un doppiatore a sua volta che ha il compito di dirigere altri doppiatori, e lo fa ovviamente dalla sala di registrazione. Lui ha tutto, ha lo script, lui ha visto il film, ha seguito tutta la lavorazione prima dei suoi colleghi che poi verranno in sala e verranno chiamati per doppiare appunto le cose da doppiare, che può essere un film, un videogioco. Esistono per esempio una branca, diciamo, del doppiaggio, quella del caratterista. Il caratterista è colui che è un attore che, diciamo, ricopre un ruolo particolare, ovvero che usa la sua voce in modo particolare, che grazie al modo appunto di usare la sua voce in modo così particolare, originale, riesce a dare vita ad altri personaggi che vanno al di fuori di quella che possono, di quella che può essere la, la sua gamma vocale. Immaginate appunto che vi devo dire, un Mino Caprio che fa Peter Griffin, che gli dà tutta quell'aria stramba e quella voce tutta miagolosa che è fenomenale, o che ne so, insomma, tutti i vari doppiatori di Paperino, insomma tutti quelli che in qualche modo hanno una voce, però la stravolgono e creano qualcosa di assolutamente originale, estemporaneo da quella che è la propria voce, appunto. Quindi, e poi ci sono i talent, che è un po' la pietra dello scandalo del doppiaggio italiano, specialmente perché sono delle figure che non hanno niente a che fare molto spesso col mestiere del doppiaggio in quanto tale, ma sono persone che hanno appunto altri, tra virgolette, talenti, magari persone che provengono dal mondo dello spettacolo, dal mondo dello sport, dal, che so, li sentiamo spesso sui Simpson, per esempio, no? Li sentite spesso sui proprio film d'animazione, sì, sono più usati. Per cui a volte molti funzionano bene, altri meno, però lì ovviamente quel genere di figura viene utilizzata, diciamo, ai fini di marketing per un film, certo. Perché ovviamente se tu inviti il talent nel tuo film o nel tuo film d'animazione, sai che quel talent poi verrà invitato nelle varie trasmissioni TV, quindi parlerà del film, e quello ovviamente accresce quella che è la finestra appunto di notorietà del film. Beh sì, poi ad esempio nei film Disney, per esempio, ne so, la cantante, che ne so, del momento, che vende tanti dischi, magari fa il personaggio protagonista non soltanto perché gli dà magari la voce per la canzone, ma proprio gli fanno fare l'intero doppiaggio. Che so, mm-hmm. È capitato pure con Fiorello, è capitato, non siamo, sì, con un sacco di gente, quindi. Sì, sì, certo. Poi a volte, ecco, ti capita appunto con ti capita il talent che è un attore, quindi è, insomma, va da sé, è un attore, quindi sa bene più o meno di che cosa si sta parlando quando si parla di... Non lo so. Beh, a volte, ripeto, a volte funziona, io non mi sento di fare polemica in questo senso, perché non mi sento di sparare a zero totalmente. È vero che abbiamo in passato e tuttora sentito cose discutibili sotto quell'aspetto, però è anche vero che ad esempio altri talent hanno funzionato molto bene, forse avrebbero funzionato meno magari degli attori di ruolo, dei doppiatori di ruolo su un determinato personaggio, per quanto ovviamente questa cosa faccia, insomma, non sia particolarmente ben accetta da chi invece del mestiere del doppiaggio ne ha fatto una vita, insomma, ne ha fatto. Beh, d'altronde è anche comprensibile, diciamoci la verità. Sì, insomma. Certo, sì. Quindi Io mi ricordo nei Simpson che c'erano, ad esempio, Bonolis la russa, Bonolis la Marini, anche in un vecchissimo film la russa, la Ruttotti, no, ma alcuni, sì, sì. Cioè loro due, Bonolis e la Marini erano piuttosto bravi, si integravano all'interno. Totti e Buongiorno erano orribili, erano, cioè sembrava Totti, davvero. Totti non sa parlare già di suo, cioè, quindi metterlo davanti a un doppiaggio, insomma, è chiaro che secondo me poi lì anche a livello tecnico avranno fatto un lavoro d'ammorbidimento, ma poi non lo so. Però davvero sembrava che avessero messo lì per caso, non era allucinante. Mike Buongiorno anche faceva piuttosto schifo. Erano, ma altri invece, cioè, grazie a Dio non sono tutti così, come stava dicendo Carlo. Ma era Mike Buongiorno o Mike Bonzombie? Mike Bonzombie, penso a Mike Bonzombie. Questo è bruttino. Ora è morto Pianello. Vabbè. No, vabbè, cioè nel senso, ecco, per esempio uno come la russa, cioè vuoi non vuoi, lui quello può fare, no? Cioè lo senti che è la russa e lo accetta, cioè nel senso, per quanto magari possa stare più o meno simpatico. Però ecco, ci sono alcuni personaggi, magari Bonolis dice che lui comunque già di suo è molto espressivo, è molto interpretativo, no? Ma anche quando fa televisione normalmente, quindi magari si può integrare meglio. Mm-hmm. Però ecco, che ne so, come si chiama il comico quello pelato che faceva Zelig? Bisio che fa i cartoni animati, cioè i lungometraggi al cinema, capisci? Cioè, vabbè, Bisio è simpatico, ti rimanda al fatto che è Bisio, ti fa un sorriso, però non si può sentire. Cioè, nel senso, io se fossi un doppiatore che faccio un doppiaggio da 20 anni, ve lo darebbe il culo, cioè, ma senso... Io guarda Simone, non sono d'accordo, nel senso proprio io mi riferivo proprio a lui prima quando dicevo che alcuni hanno funzionato particolarmente bene. Secondo me il suo personaggio, il bradipo di Coselli dell'Era Glaciale, quello è veramente secondo me fulgido esempio di quello che invece è potrebbe essere il talento nascosto fra virgolette del talent, che è una cosa che non ti aspetti. Perché lavora molto sulla voce, che fa tutto sì, così. Quello ha detto anche di professionisti che io conosco, insomma, l'hanno riconosciuto proprio serenamente, per cui non è che hanno detto che io non sarei stato all'altezza, per carità, però hanno detto che ha svolto un ottimo lavoro, insomma, in quel senso. Quindi secondo me non bisognerebbe demonizzare, no, anche ma perché non è che lo demonizzo alla fine, io parlo in generale, nel senso che alla fine l'utilizzo del talent in sé per sé rappresenta anche per certi versi l'innovazione. Per cui se non innoviamo mai non dobbiamo poi lamentarci di quelli giustamente che dicono ma sono sempre le stesse quattro voci che lavorano, c'è stato sempre quei quattro, accendi la televisione, senti il doppiatore lì, cambi canale, senti che fa la pubblicità lì e via dicendo. Quindi insomma alla fine poi ovviamente questo è vero, queste poi dopo diventa una loggia loro, cioè è chiaro, certo, questo anche è vero, certo. Quelle sono cose ovviamente che devono essere utilizzate con parsimonia, cioè i talent, anche perché a volte vengono utilizzati veramente quasi senza un criterio vero e proprio, e lì diciamo che lì non riesco più a capire io quando è bene e quando è male. Ho sentito in passato cose per cui ho detto va bene, ma questo qui che c'entra con questa cosa? Io capisco, per dire, che ne so, il film dei calciatori, gli metti tutta la formazione della Roma, della Lazio, quello che ti pare a te, c'ha un senso alla fine, no? Stai a fare calcio, metti i calciatori, è carino, no? Per chi alla fine magari uno che si va a vedere un film sul calcio è magari si parte dal presupposto che sia un appassionato, quindi ci sta. Volendo sentire gente che ovviamente il microfono non sa manco che cos'è, no? Con tutto il rispetto dei calciatori, però sono sicuro che anche loro sanno che questo del doppiaggio non è il loro mestiere, per cui ovviamente si approcciano a questa cosa con tutta l'ignoranza del caso, insomma, come giustamente giusto che sia. Vabbè, una volta gli facevano fare direttamente i film, cioè, vedi. Sì, però quando tu senti, per dire, un presentatore sul documentario della natura, allora lì non ha quasi più senso, capisci? Non riesco a capire il nesso del ragionamento, però ovviamente non è una cosa che viene fatto con un particolare criterio, no? Ma adesso non so, io ancora non so diciamo quella che è la motivazione dell'utilizzo di una persona piuttosto che un'altra da questo punto di vista. Ma non è che magari rispetto al passato, col fatto che c'è il digitale terrestre, la televisione satellitare, quindi un continuo flusso di stream di programmi e sottoprogrammi e roba del genere, magari il materiale è talmente ampio, talmente numeroso da dover produrre, che probabilmente magari si arriva a un punto in cui non c'hai la copertura, magari potrebbe essere, magari questo no. Potrebbe, tu, non tu non che lo cosa so. Fai? Sto pulendo la stanza. No, molla tutto, vieni qui che dobbiamo fare una vieni, sessione. Vieni. Bisognerebbe fare un film come Boris sul mondo del doppiaggio, sarebbe figo. A cazzo dei cani, esatto. A cazzo dei cani. Allora, vabbè, comunque. Andiamo. Continuo? Sì. Ok. Possiamo anche intervallarci con un 10 minuti di silenzio. Esatto. Così possiamo anche far sentire meglio le voci. Per punizione. Possiamo fare una preghiera. Tutti al contrario, ragazzi. Tutti al contrario. Salutiamo il nostro amico Vittorio. Vittorio. Torna con noi. No, non è vero. Torna sempre. Un saluto a tutti gli amici di Dietrologia Videoludica da Barbara De Bortoli. Continuate a seguirci, No, io volevo chiedere, vabbè, in primis dire che se fosse per me i doppiatori sarebbero falliti, perché come sapete che palle con sta storia. Ho un'enorme stima dei doppiatori, ma tendo a guardare tutto in lingua originale, idem le cose italiane, quindi che non vengono doppiate. Tu però sei uno di quelli, quindi. Sì, ma no, vabbè, dipende dai casi. No, no, ma io rispetto profondamente, anche perché io, vedi, lavorando comunque in doppiaggio, in televisione, ovviamente la parte tecnica della televisione, comunque anch'io a volte prediligo, e lo dico proprio fuori dai denti, l'utilizzo dei sottotitoli della lingua originale, in particolare sui videogiochi, poi vi spiego anche perché. E, per cui no, io rispetto comunque tutti i punti di vista, insomma, del caso. Io volevo, ecco, l'altra domanda è: che differenza c'è tra film, serie TV, videogiochi a livello di doppiaggio in generale, a livello tecnico? A livello mi sa che ci arrivavamo piano piano, penso. Sì, sì, adesso sto cercando di far avanzare un po' le cose, Simone, per favore. Sì, diciamo che quella poi sarebbe stato il secondo punto di approfondimento sulla questione, perché adesso abbiamo fatto una finestra, abbiamo aperto appunto quella che è la finestra dei mestieri dei doppiatori, dei sottomestieri, diciamo, che comprende appunto il termine doppiaggio. Senti, posso fare una domanda io su queste cose qui? Sì, certo, dimmi. Certe volte, no, sentendo magari qualche doppiaggio di qualche telefilm, mi sono accorto che vengono dette delle cazzate. Mo adesso non c'ho un esempio preciso, però magari vengono sostituite delle parole con altre. Beh, Fininvest censura la cifra. Big Bang Theory, che l'adattamento è fatto a culo di scimmia morta. Anche, no, ma io parlo proprio di magari film che sono, ci sono 5 film, che ne so, Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 10. Uh-huh. Uno si chiama Warp, l'altro si chiama Curvatura, l'altro, esatto, si chiama, ma, cioè, a un certo Kirk, punto, l'altro si chiama Kirk. Ma a un certo punto il doppiatore, perché quello che poi alla fine ci mette la voce, no? Che quello è l'ultima, cioè l'ultima ruota del carro, nel senso che è l'ultimo che interviene in tutto il procedimento, perché lui è l'ultimo che esegue praticamente. Lui è un esecutore. Materiale esecutore. Ma se si accorge che c'è una cazzata sul testo, no? Una qualsiasi cosa, ma lo dice, cioè, ragazzi, io ho visto tutti i 25 film di Star Trek, tutte le serie, questo non si dice così, ma si dice cos'ha. Cioè, ha la facoltà di modificare qualche cosa, di farlo presente, o deve sottostare ai voleri altrui? Guarda, ammesso che questo avvenga veramente, che magari un doppiatore si accorga o si ricordi che lì diceva curvatura, qui diceva un'altra cosa, non so. E questo è abbastanza, è una cosa possibile, per carità, però devi anche pensare che i doppiatori fanno tante tante tante cose, per cui dubito che magari qualcuno possa ricordarsi veramente, a meno che non l'abbia fatta veramente di recente, che potrebbe esserci anche l'appassionato, comunque magari chi... Potrebbe esserci anche appassionato, però comunque devi anche pensare che tutti quelli che sono i testi che vengono letti dentro la sala, i copioni del doppiaggio, sono tutti copioni che sono stramega approvati da consulenti, clienti e tutto il resto, per cui non hai sto grande margine di spostamenti di fattori, ovviamente, all'interno del copione. Quindi ripeto, poi ammesso che queste cose vengano tanate appunto in fase di lavorazione, è più facile che magari un appassionato alla fine di tutto si accorga che è stato detto, è stato omesso il termine, o magari anche quante volte è successo che magari quel personaggio è doppiato in quell'episodio da un doppiatore, nell'altra serie viene, sì, doppiato da un'altra persona. Sì, sì. Quello purtroppo sono cose che succedono, dipendono da tantissimi fattori, non avete idea proprio di quelle che sono quelle possono essere appunto questo genere di problematiche che possono avvenire. E lì purtroppo si fa quello che si può con i tempi prestabiliti, per cui è prevista la consegna di quella determinata lavorazione. Beh, a me mi è capitato, per esempio, e poi vabbè, chiudiamo e andiamo magari poi al secondo punto, perché mi è capitato proprio di vedere un film tratto da una serie televisiva dove tutti i doppiatori erano gli stessi doppiatori della serie televisiva, tranne uno che era anche questo facente parte della stessa team, ma un altro personaggio, però faceva un altro personaggio a cazzo, così, non senza motivo, cioè nel senso che serie? Era sempre Star Trek. Perché su The Next Generation l'attrice che doppiava Diana Troi, a un certo punto gli hanno fatto doppia Guinan, così, vabbè, per chi conosce, E quella che faceva Diana Troi, cioè, hanno preso proprio un'altra che non c'entra. Si vede che la dovevano infilare in mezzo e quell'altra non la potevano mandare via. E quindi comunque hanno comunque sostituito un'attrice, perché oppure una doppia. Sì, vabbè. Sai, lì ovviamente le dinamiche sono molto più complicate di quelle che magari noi possiamo vedere. Noi, dico, anch'io ovviamente a volte mi faccio queste stesse domande che vi fate voi, nonostante io sono in parte del settore, insomma, così di riflesso. Ti dico che ti rispondo con queste cose purtroppo succedono e dipendono da tantissimi fattori. In questo caso, chissà, cioè possiamo veramente solo ipotizzare se magari è stata una richiesta di una persona, appunto, che può essere stato il direttore del doppiaggio o qualche figura, diciamo, di raccordo fra l'Italia e l'America. Non si sa, cioè, possiamo solo supporre. Carlo, due persone con una valigia si sono messi seduto e sono andati al regista e gli hanno detto: è lei la ragazza. Madonna, esatto. Che film era? Ah, sì. No, oddio, che film era? Mulholland Drive. Un aperto la valigia dentro. Filmone, c'era. Veramente filmone. E come diceva Gigi Proietti, anche se forse probabilmente con un po' di esagerazione, mi pare che era lui che lo diceva, il lavoro del doppiatore è un lavoro da minatori. Quindi andiamo avanti, Carlo, che passiamo al secondo punto? Andiamo avanti. Io volevo giusto appunto sondare appunto il terreno del secondo punto, ovvero quelle che sono le differenze fra il doppiare appunto un film e il doppiare qualunque altra cosa, come appunto mi chiedeva prima anche Stefano. Prima di passare al secondo punto, squattiamo allora. Squattiamo pure. Perché vai. Questa è una trasmissione oggi proprio piena di squattamento supremo, insomma, quindi vai. Un enorme saluto ai ragazzi di Dietrologia Videoludica da Cristian Ianzante. Ciao. Riprendiamo il discorso che facciamo prima. Quindi, in che cosa si suddivide il lavoro del doppiaggio, proprio a livello proprio di lavorazione? Il lavoro del doppiaggio può essere appunto può, diciamo, contemplare una lavorazione che ha necessità di un sync di labiale, quindi un film, una serie TV, qualunque altra cosa, insomma, dove ci sono degli attori che muovono la bocca e c'è un doppiatore che deve rifare appunto le battute trasformandole in italiano, rimanendo appunto aderendo con le sue parole, insomma, a quelle appunto che sono i movimenti della bocca dell'attore in video. Tuttavia ci sono anche altri tipi di lavorazione, come potrebbe essere quella di fare uno spiegheraggio, una narrazione di un documentario, fare un oversound di un documentario, ovvero immaginate, insomma, il classico oversound che parte con l'attore in video che parla, dopodiché si sente, insomma, c'è un abbassamento di volume della sua voce e parte la colonna italiana. Certo. Con la sua voce in sottofondo che ancora si sente, dove appunto non c'è una richiesta appunto di labiale, di sync di labiale. Un'altra lavorazione potrebbe essere la pubblicità o la promozione, che è un po' il mio settore, e che è un'ennesima incarnazione, se vogliamo, un'ennesima emanazione proprio del mestiere del doppiatore, un'ennesima skill, come possiamo definirla. Paradossalmente, magari può succedere che anche un grandissimo doppiatore potrebbe non essere altrettanto bravo messo davanti a una pubblicità o alla realizzazione di un promo. Magari però è un doppiatore strepitoso che sugli attori che doppia rende meravigliosamente. E poi c'è, ovviamente, ci sono le altre mansioni, come quella del brusio, che sono appunto quelle colonne di persone che parlano, che magari devono replicare, per dire la sala di una festa, così sono tutte persone che parlano, eccetera eccetera. Quello anche è un ennesimo mestiere del doppiaggio. Ci sono addirittura doppiatori che fanno solo quello nella loro vita, non avete idea. Queste fagioli. Esatto, così. Questo è un gancio alla puntata precedente, andatevela a sentire. E poi c'è il canto, come ci ha abituato, insomma, da decenni ormai Disney con i suoi musical. Quella è un'ennesima. E poi ovviamente ci sono, ditelo voi, i video. Mass Effect. Bravo. Mass Effect, perché il mondo si divide in film, telefilm e Mass Effect. E sì, quindi poi perché veniamo... se Dragon Age l'avessero doppiato in italiano sarebbe anche un po' Dragon Age, però purtroppo. Esatto. E poi arriviamo appunto ai videogames, signore e signori. Ci siamo arrivati dopo circa un'ora più o meno di podcast, però siamo contenti. Beh, stava a fare cultura, cioè, stiamo facendo, sì, sì. Mi raccomando, questo che vi sto dicendo sono perle. Mi raccomando, proprio. Fatene buon uso, perché nessuno ve le direbbe. Sì, sì, a me dicono sempre che sono un perla. No, no, massimo, però c'era la I di mezzo. C'erano due a fianco. Vai. E quindi, come si doppia un videogioco? Questa è la domanda vera. Come si doppia? Come si doppia? Mica è una cosa così che uno pensa che mo mi doppio un videogioco e via, insomma, e poi vado a cena. No, no, è una lavorazione completamente differente da tutte quelle che ho elencato prima. Innanzitutto è una lavorazione differente anche dal punto di vista proprio, diciamo, filosofico, no? del termine, perché come la mia premessa voleva, il doppiaggio si fa seguendo un video, seguendo in qualche modo un attore, un elemento, qualcuno, insomma, che sta in video e parla, e mediante il suo audio in cuffia tu doppiatore replichi quello che vedi e senti e cerchi di renderlo nella tua lingua, e fin qui non ci piove. Ovviamente questo nei videogiochi manca quasi completamente, non dico del tutto, però diciamo in una grandissima percentuale manca completamente, perché il doppiaggio dei videogiochi non si fa a video. Mi spiego. Nel doppiaggio dei videogiochi spesso, insomma, sappiamo bene che il doppiaggio di un videogioco viene effettuato quando il videogioco è ancora in corso d'opera, quindi è impossibile o è molto improbabile che la casa che sta sviluppando il videogioco abbia già delle sessioni di gioco fatte, pronte, che mandi delle clip video già belle, impacchettate, definitive alla casa di doppiaggio che poi si occuperà del doppiaggio del gioco. Quindi come si fa? Il doppiaggio dei videogiochi viene fatto a nero, che è il termine tecnico appunto che si usa in doppiaggio, cioè ovvero senza l'ausilio del video. Il doppiatore dentro la sala sentirà solamente quelle che sono le battute degli attori inglesi, americani, giapponesi, quello che è, insomma, che hanno preso parte al videogame, che nella maggior parte dei casi sono le battute degli attori che hanno partecipato alle sessioni di motion capture, se il videogioco appunto prevedeva questo tipo di lavorazioni. E mediante la proiezione sul video della sala di doppiaggio della timeline del software che viene usato per appunto per registrare quelle che sono le battute dei doppiatori, vedrà la lunghezza effettiva delle battute dei doppiatori, degli attori stranieri, che poi ovviamente sentirà anche in cuffia, e avrà quel margine di lunghezza per riuscire a replicare quella battuta. Lui sentirà hi e dovrà fare ciao, e dovrà rimanere, insomma, in quella che quel tempismo, nella durata esatta, quanto più esatta, insomma, della battuta originale. Ovviamente, insomma, va da sé che è approssimativo, diciamo. È una lavorazione, esatto, una lavorazione approssimativa, una lavorazione che tutto sommato non rende neanche particolarmente giustizia a quelle che sono poi le figure appunto professionali che lavorano nell'industria del doppiaggio. E perché ovviamente, insomma, sì, tu puoi avere uno script quanto più dettagliato in cui al battuta hi e ciao segue tutta la descrizione, che ne so, Joel sta parlando a Ellie che si avvicina e entra nella stanza, quindi tu puoi immaginare il contesto della battuta, ed è quello fondamentalmente che ti aiuta nell'interpretarla quella battuta, perché non hai nessun riferimento a video. Però rimane sempre comunque però c'è l'audio. però c'è l'audio, però quanto ti aiuta realmente questa cosa alla fine? Non molto, a volte sì, altre volte no, altre volte alcune battute vengono dette in maniera del tutto decontestualizzato, per cui non si sa se quella persona che dice quella cosa sta, che ne so, lottando, sta camminando, sta correndo, per cui a volte questo si traduce in vedere qualcosa di strano, anzi sentire, scusate, qualcosa di strano rispetto a quello che invece noi vediamo su un videogioco. Quante volte ci è capitato di sentire, per dire, di vedere una scena di uno che sta scappando via da un incendio e anziché sentire "ah scappa presto", dice "ah scappa presto". Beh, per dire, abbiamo, no? Fatto, cioè, un, questa episodio, è una cosa, sì, anche per cui queste sono le problematiche. Lo sai che tante incorrere. Volte ho fatto una domanda su questo, nel senso che fermo restando che un po' lo sapevo che era così come ci stavi descrivendo, è vero pure che dal contesto descritto, dall'audio, comunque un po' uno spunto ce l'hai. A volte secondo me c'è sì, vabbè, a parte che ci sono stati dei doppiatori sicuramente di scarsa qualità nel passato dei videogiochi, e questo l'abbiamo già detto, è vero anche dall'altra parte che secondo me a volte manca, non ti dico l'entusiasmo, però sa, quella buona volontà in più, cioè nel senso quel pizzico di volevo fare altro nella vita, lo potevo fare un po' meglio ma non me ne frega un cazzo, cioè ecco, questo è un po' il, perché io purtroppo mi esprimo in questa maniera qua. E anche perché la pre-produzione, per esempio, ho seguito tante volte magari nel blog dei Telltale, quindi quelli che hanno fatto The Walking Dead e compagnia bella, loro scelgono gli attori che faranno il doppiaggio dei personaggi a scripting completato, e anche lì loro producono il doppiaggio del videogioco precedentemente alla reale fine o conclusione del videogioco, cioè loro lavorano il doppiaggio a parte, cioè nel senso, comunque quella è la parte che loro poi sanno che devono registrare, scelgono gli attori, gli fanno registrare le scene con una determinata tipo di interpretazione. Quindi alla fine, cioè nel senso, anche loro si trovano di fronte a un mancato elemento aggiuntivo che può essere quello dell'immagine, del video, così come diciamo noi. Però tu stai parlando però di doppiatori americani o doppiatori italiani? Doppiatori americani, cioè no, non puoi fare questo paragone. Purtroppo non è. No, nel senso, ti spiego, non è una cosa applicabile perché loro lavorano in modo differente dalla nostra. Cioè, per loro il doppiaggio di un videogioco è una cosa che si fa a monte del videogioco. Esatto. E poi comprende nella quasi stramaggioranza dei casi, veramente salvo rarissimi casi, comprende quelli che sono gli attori stessi che hanno prestato il loro anche corpo, faccia, le loro fattezze non al sempre, videogioco. Però sì. Non sempre, però sono come gli attori di Hollywood, cioè loro quando fanno un doppiaggio di un videogame, non stanno facendo un videogame, stanno come, cioè la lavorazione viene approcciata come se stessero facendo un film, capisci? Quindi sono proprio altre, è un'altra tipologia, e anche hanno altre, tra virgolette, competenze. Comunque è un lavoro il loro che viene svolto a braccetto con il producer del gioco, con il lead designer del gioco, che dice guarda, no, ti ricordi questa scena quando l'abbiamo fatta sul set, lui sta scappando via, quindi è disperato, c'è lei che gli tende la mano e lui che corre, che sta crollando tutto, cioè quindi queste sono cose che ovviamente quando la lavorazione viene portata qui da noi in Italia molto spesso mancano, non dico mancano del tutto, perché per carità esistono comunque delle figure di raccordo, in primis quella del direttore del doppiaggio che sta in sala, che comunque è la persona che tra tutte conosce maggiormente la lavorazione che si sta facendo, ma comunque ci sono anche delle figure di raccordo con quella che è la casa che ha commissionato la lavorazione, che interviene qualora né il doppiatore in sala, né il direttore del doppiaggio, né nessun altro dello staff presente all'interno dello stabilimento sa che cosa sta facendo, come la dobbiamo fare questa battuta, che cosa sta succedendo in questa scena, c'è una nota che manca qui, qui c'è lui che sta dicendo fermati, non puoi farlo, come lo deve dire, lo deve urlare, lo deve, che ne so, lo deve dire piano, lo deve portare la voce, deve, cioè capisci, ci sono tutta una serie di accorgimenti che comunque sia, quando tu fai un gioco con la persona al tuo fianco che il gioco l'ha inventato, l'ha creato e l'ha disegnato e sa benissimo quello che sta succedendo, ovviamente sono cose che nel momento in cui ti mancano inevitabilmente le soffri, però è una cosa che questa può essere applicata solo ed esclusivamente per un discorso di doppiaggio americano di un videogame, capisci? Okay. Per questo dicevo, non può, è un parallelo che non può essere fatto nel no vabbè che, ma io facevo riferimento alle produzioni minori, tipo quando è stato realizzato Tales of Monkey Island, tutti e cinque gli episodi, comunque il doppiaggio era stato fatto in precedenza, lì non è che gli attori partecipano al mock-up o comunque a sì, però è chiaro che loro hanno comunque di fronte la persona che comunque ha scritto, se non altro, le sceneggiature, che quindi fa la direzione magari sì, del, sì. No, ma anche del gioco, film d'animazione, certo. Esatto, anche film d'animazione come Madagascar, a volte quello che è il doppiaggio fra virgolette viene realizzato prima addirittura di modellare i personaggi. Ben Stiller, Chris Rock partecipano alle fasi di voce tra virgolette, perché non è un doppiaggio, che doppiaggio è, si prevede che già ci sia qualcosa su, da doppiare, però è quello è praticamente una di recitazione ancora prima di che i loro modelli vengano creati, insomma, o meglio diciamo alcune degli sketch dei loro modelli poligonali e loro modelli tridimensionali della zebra e del leone, faccio caso loro due, mi sono venuti in mente loro due così, li fanno partendo da quella che è stata l'interpretazione di Ben Stiller e di Chris Rock all'interno della sala di incisione. Per cui, capito, è una cosa per loro, è veramente. Loro infatti culturalmente hanno un approccio veramente completamente differente proprio a questo tipo di mestiere. Quindi per loro non è una cosa che viene fatta post, è una cosa che viene fatta molto spesso pre-produzione. Sia sì, nei film d'animazione sia nei videogiochi. Nei cartoni, cioè comunque nei cartoni animati i disegnatori poi si basano su quello che viene fatto praticamente in studio di registrazione audio, per cui si basano sulle tracce audio per andare in sync. Diciamo che li aiuta magari insomma, in qualche maniera. È una sì, compartecipazione globale. Non è che disegnano e poi dopo quelli doppiano, cioè disegnano su quello che è stato recitato, quindi sì, poi ovviamente come base. Certo, poi ovviamente da lì non è detto che non ci siano poi successivamente a che il modello appunto del personaggio del gioco o del film d'animazione che dopo che insomma è stato creato, questo ovviamente non vuol sì, dire che non ci saranno dei successivi interventi di registrazione di voci per fare rifacimenti o altro. È ovvio che questo capita sicuramente proprio però diciamo che il 3D è un po' più, cioè è un po' meno complicato, perché poi alla fine il 3D permette comunque di modificare anche dopo che il lavoro del video è stato fatto, perché lì basta che riprendi sì, la scena, rifai fare la parte audio e gli riadatti praticamente il parlato. Non è che devi rimetterti lì a ridisegnare, però devi rirenderizzare tutta la scena. Ma sti cazzo, lo fa il computer, mettiti lì a disegnare fotogramma per fotogramma. Forse, cioè, è un po' diverso. Forse a molti sfugge che la maggior parte del costo di produzione di un cartone animato in 3D sta proprio nei tempi di rendering. Sì, perché ma sti cazzo, io sto parlando della facilità di rifare una scena, non del costo. Sì, sì, no, la facilità chiaramente, però cioè, se tu devi rirenderizzare tutto un blocco, chiaramente. Invece, se devi ridisegnarlo, disegnatore. Ma non penso che sia facile né nella situazione né nell'altra, quando devi andare a fare un lavoro di post processing definitivo come quello del rendering. Insomma, voglio dire, sia in un modo o nell'altro. Il rendering penso che sia l'ultima cosa che fanno. Sì, pensi. Quindi, pensiamo. Può essere. Quindi prima di andare sul rendering, prima verificano che ci siano delle modifiche o meno. Io penso che proprio quando vanno a fare rendering, a voglia le modifiche che hanno fatto. Cioè, deve essere proprio una cosa clamorosa. Eppure buttano un sacco di roba. E lo so che buttano un sacco di roba, però sono americani. Cioè come... What's American? Ma stavamo parlando di doppiaggio. Sì. Comunque, dicevamo. Quindi, insomma, questa è la premessa iniziale, insomma, ci tenevo insomma a differenziare quelli che erano appunto i mestieri, i sottomestieri, i sottoinsiemi possiamo definirli, del doppiaggio, che sono molto spesso lavorazioni a cui nessuno pensa, insomma, magari sono lavorazioni che nessuno riconduce necessariamente al doppiaggio strettamente parlando, e per insomma enfatizzare quella che è la differenza, poi le differenze anzi fondamentali, fra quello che è il doppiaggio classico, diciamo così, e quello che è il doppiaggio di un videogame. Quindi diciamo che partendo da questo presupposto noi dobbiamo soppesare appunto quelle che sono le critiche che possono venire mosse a un doppiaggio di un videogioco. Diciamo questa è quella che è la, diciamo, il cappello iniziale che io volevo certo. fare, un po' anche il primo spunto di riflessione che volevo fare con voi, insomma. Che poi Stefano sì. in realtà al di là di quelle che sono state le gravi pecche magari del passato, anche pur comprendendo questo metodo di lavorazione, siamo arrivati comunque, ecco, forse con The Last of Us in particolare, a livelli comunque di quasi eccellenza, no? Per quello che è ovviamente il media, cioè il videogioco, che ovviamente non ha mai usufruito di cose splendide, insomma, fino ecco negli ultimi anni, che comunque adesso cominciano a uscire veramente dei lavori egregi, seppur fatti in determinate condizioni. Forse se uno deve fare una critica magari al doppiaggio di The Last of Us, ad esempio, lo fai la critica sulla localizzazione piuttosto che cioè nel senso sull'adattamento, un doppiatore che dice suonare gli scacchi anche il doppiatore lì avrebbe dovuto porsi, qui torniamo sul discorso capito? Esatto, si accorge, cioè, che stai a dina cazzata, hai capito, cioè nel senso, cioè, evidentemente il doppiatore lì di fronte al capo del doppiaggio, come si chiama, insomma, al direttore del doppiaggio e tutto il lavoro già bloccato, evidentemente non c'ha più margine di modifica. Ma comunque io doppiatore, nel momento in cui dico suonare gli scacchi, c'è qualcosa che non mi ritorna, a meno che poi non puoi andare a pensare che probabilmente c'è sotto una metafora, ma se tu vai al richiamo inglese lo sai che è sbagliato, no? Cioè nel senso si capisce che è sbagliato. Sì, purtroppo questa è una cosa su cui è un punto su cui si batte moltissimo, ed è una cosa su cui molti doppiatori si lamentano anche sulla sembra banale, a noi ci sembra banale perché dice dai raga, cioè suonare gli scacchi, ma che è? Cioè veramente, però a volte veramente le modifiche ad un testo che è stato certificato ed è come, non so, la Bibbia, dice no, però qua c'è un errore, cioè, ed è ovvio che è una cosa che semplicemente non si può fare, si parte da questo presupposto, ammesso che poi, ripeto Simone, ammesso che qualcuno se ne sia accorto, non perché il doppiatore non è una persona sveglia, sicuramente se ne sarà pure accorto, però chissà, cioè magari l'ha detta perché pensava che lì c'era un doppio senso. Sì, no, questo, cioè, lo capisco. Poi sono cose, voi immaginatevi la mole, perché non avete idea della mole di dialogo che ci può essere in un videogioco. I copioni di un videogioco, voi pensate, per dire, a uno Skyrim, ad un, cioè, sono veramente dei tomi che veramente sembrano dei libri di biochimica dell'università, sono cose che non finiscono mai. No, certo. E sono tutte battutine, cose per cui tu veramente dopo la prima ora e mezza di questo lavoro veramente ti si incrociano gli occhi e vai proprio come un treno da solo. Secondo me diventa un lavoro meccanico, nel senso i doppiatori che prendono parte a queste lavorazioni e le fanno anche bene, hanno veramente tutta la mia stima e la mia solidarietà. No, anche, per carità, perché, assolutamente. Infatti, lì la critica maggiore la fai a chi cazzo ha fatto appunto l'adattamento, come diceva Stefano prima, perché ricordo che tramite Italian Podcast Network è stato editato a una puntata podcast speciale che è andata su Whiskast, su Outcast, è stata una sorta di puntata unificata sul tema della localizzazione, cioè è una cosa che avrebbe dovuto mandare in linea anche DVL, poi noi abbiamo deciso di non farlo, un po' perché comunque era già stata mandata su tanti altri feed, quindi sembrava inutile, un po' perché sono stati anche insomma delle problematiche sugli accordi che ci dovevano essere, ma questo è un discorso che purtroppo fa parte di un vecchio modo di questo ambito, insomma, dei podcast dei videogiochi, quindi lasciamo perdere il discorso. Comunque è un podcast che, se ve lo andate a ricercare, non, ribadisco, non so se lo pubblicheremo noi, però comunque se ve lo andate a ricercare su Outcast, su Whiskast o su tanti altri podcast, credo anche il Tentacolo Viola, adesso non ricordo, ma insomma sono stati, è stato pubblicato. È interessante perché molti di questi ragazzi che hanno lavorato nell'ambito dei videogiochi sono andati all'estero, magari hanno fatto i beta tester o roba del genere, magari hanno aperto piccole società o associazioni che lavorano nell'ambito della localizzazione e che prendono commissioni anche da queste software house anche importanti e si occupano dell'adattamento, quindi della localizzazione reale del testo dei videogiochi. E quindi ci spiegano quali sono le difficoltà e in che tempistiche e che condizioni spesso lavorano, che sono veramente condizioni drammatiche. Ma ha dato sempre fastidio a me sta cosa del fatto del tentare di giustificare sto suonare gli scacchi, no? No, perché voi dovete capire. Ok, cioè nel senso va bene tutto, ribadisco, però secondo me lì è un po' forzata come cosa, perché lì è macroscopico, cioè non è che mi stai, è un errore, non è cartellino Gaillo. Ok, Cattolino che, Gaillo, che c'è un errore, cioè oggettivo, c'è un errore che è proprio lì, è proprio l'aver tradotto in quella maniera lì, con un automatismo probabilmente, o forse con un atteggiamento di poca accuratezza magari nella revisione del testo che hai fatto, che comunque è un errore che hai commesso. Accetta che hai commesso un errore e dici: ho commesso un errore, perché tutte le critiche ci sono state non si rendono conto che, ok, io posso rendere conto di qualsiasi cosa. Carlo mi insegna che lui fa una professione che se lui sbaglia qualcuno con lui si incazza, lui poi può anche andare di, però voi non vi rendete conto che, no? Nel senso, penso, no Carlo? Cioè, sì, indubbiamente. Io poi ripeto, massima solidarietà. Io l'ho ascoltata quella puntata, l'ho trovata molto interessante, devo dire, ha anche un po' aperto la finestra su quello che è il mestiere dell'adattatore del videogioco, che era un po' per me un po' come dire un terreno un po' inesplorato. Tra l'altro io sono venuto anche a conoscenza di alcune voci che ho sentito sui vari podcast, comunque varie persone insomma che sono state, che sono redattori o comunque magari vengono invitati spesso e volentieri nei vari podcast che ascolto, che sono anche degli adattatori. Io dico bravissimi ragazzi, praticamente quasi tutti, continuate così. sì no, ma guarda, lo dico veramente col cuore in mano, sono contento di sentire che questo mestiere venga affidato in mano a persone che sono appassionate di giochi. Non avete idea di quanto questo possa essere un valore aggiunto nel mestiere, appunto, in questo genere di mestieri, se vogliamo, artistici. Ad esempio, non mi ricordo, forse qualcuno di voi se lo ricorda, io purtroppo chiedo venia, però la mia memoria è molto fallace. Tranquillo, ci pensiamo noi. Non ci preoccupare. Su quell'adattatore che ha messo la supercazzola prematurata su Fabio Bortolotti. Veramente, cioè, non ho parole, strepitoso, veramente strepitoso. Sono pure contento che comunque abbia trovato dei clienti che abbiano permesso di questo genere di iniziativa, e no, veramente in questo io vedo anche una tra virgolette una possibile evoluzione di questo lavoro, e sono contento, come vedo anche una possibile evoluzione di quello che è il mestiere del doppiaggio dei videogiochi, che comunque, come dicevi giustamente tu prima Simone, agli albori del videogioco era un mestiere, adesso sta assumendo delle tinte differenti, sta assumendo delle tinte più mature, molto molto molto più professionali. Adesso c'è una grandissima attenzione alla cura, alla qualità del mestiere che si fa. Prima erano dei meri spiegheraggi, insomma, basta che vi andate ad ascoltare senza lasciare tracchia la puntata che è stata un po' il là che mi ha catturato, proprio mi ha fatto prendere contatti con Simone, con Dietrologia Videoludica, per essere, insomma, per poter partecipare anch'io a questa trasmissione, lo dico proprio tranquillamente, proprio. Ma chi si salverà dalle forze che mi ha quindi basta che vi ascoltate quella puntata e ascoltate appunto uno di qualsiasi dei doppiaggi che sono stati proposti in quella puntata, che sono osceni, ma sono osceni perché comunque le lavorazioni di per sé erano oscene, fatte da persone che non erano assolutamente professionisti, no? non ci voglio neanche pensare al fatto che magari un Metal Gear Solid o ma adesso non mi ricordo, però insomma. Ma tu pensi, Metal Gear Solid come qualunque altra cosa del tempo potesse essere stata doppiata da, in qualche modo, da un professionista? Lì ci sono inflessioni di dialetti, di cose che ovviamente grazie a Dio adesso sono sparite. Tu pensa Carlo che Marco da quella puntata ha una malattia esantematica sconosciuta. Fantastico. No, questo è solo quello. No, ma lì ci sono proprio delle cose che meravigliose. Cioè, secondo me sono diventate cult. Quelle cose ce le ricorderemo per sempre perché sono strepitose. Ma veramente. Beh, sì. Per cui tutto sommato ci siamo anche un po' affezionati. Nel senso, la loro obbriosezza, voglio dire, nel senso, sì. Comunque è una cosa che alla fine ha fatto parte. E come abbiamo detto anche nella puntata, parlando proprio con Luigi Marrone, in realtà noi eravamo grati di quello che ci hanno insegnato qualcosa, comunque, no? Sono state un po' il primo mattone di quello che poi è diventato il muro che adesso ci abbiamo davanti, insomma, per cui è comunque tra virgolette una cosa positiva, insomma. È vero che se adesso magari ci lamentiamo che non c'è budget per doppiare il videogioco, che è un'altra un po' pietra dello scandalo del doppiaggio dei videogames, che comunque videogame, se ci pensiamo, è un'industria che incassa 7 volte quella di Hollywood, lo ripeto statisticamente, e però destina dei budget che sono piuttosto risibili, insomma, quella che è la localizzazione del videogioco, localizzazione intesa come adattamento e come doppiaggio poi in sé per sé dell'opera. E questo secondo me è una cosa che potrebbe e dovrebbe cambiare, anche per incentivare quelle che sono le figure professionali a fare meglio, non perché adesso facciano peggio, ma perché valorizzando questo genere di lavoro si potrebbe forse arrivare a un punto tale da renderlo più dignitoso, cosa che avrebbe bisogno. Pensa che secondo me anche voi siete d'accordo. Molto dobbiamo, secondo me, anche poi sentiamo un attimo a giro pure Stefano e poi Marco. Molto secondo me lo dobbiamo anche alle case proprietarie tipo Sony e Microsoft, e ancora prima comunque già da PlayStation 1, perché comunque hanno investito molto, nel senso che comunque nei giochi che loro importavano o esclusiva parziale comunque hanno supportato molto le localizzazioni nelle varie lingue, Sony in particolare, cioè nel senso comunque probabilmente giochi come Heavy Rain o appunto ne abbiamo parlato recentemente Beyond, hanno la localizzazione proprio perché erano prodotti di punta di Sony comunque, perché e la stessa cosa ha fatto comunque Microsoft, che ha tra l'altro localizzato in alcuni casi, se non addirittura doppiato, giochi che magari non erano mai stati doppiati. Quindi insomma, voglio dire, questo è un punto a favore, perché probabilmente al di là del doppiaggio in sé, che comunque oramai è diventato una parte integrante nella lingua originale, sicuramente per quanto riguarda noi che abbiamo un problema maggiore rispetto agli altri paesi, perché il doppiaggio da noi comunque costa di più, cioè oggettivamente costa di più, ma anche per motivi storici e per motivi professionali, perché come si è detto, cioè comunque da noi il doppiaggio è un mestiere riconosciuto, effettivo. In America non esiste il concetto di doppiaggio, ma quasi, cioè non so adesso bene negli altri paesi, comunque sicuramente è più noi ci abbiamo comunque una storicità, insomma, diciamo, è uno dei doppiaggi tra l'altro riconosciuti anche a livello mondiale tra i migliori, quindi ci sarà comunque una ragione per la quale probabilmente gli americani, per dire, quando se vedono un film straniero che gli piace, loro non lo doppiano, lo rifanno, se lo rifanno, esatto. Sì, direttamente, cioè con in lingua loro 14, esatto. Loro, perché deve essere, cioè non ce la fanno, gli costa di meno probabilmente, ma non è che gli costa di meno, è proprio questa loro concezione della standardizzazione del loro stile di vita, del loro modello di vita, del loro modello estetico, che comunque quello deve essere, non ce la fanno a vedere una cosa diversa. Cioè è un po' come il discorso dei quartieri residenziali americani, se tu li vedi, no? Non so se voi avete mai visto Wiz, il telefilm. Che è la storia che è la storia di questa madre di famiglia che è rimasta vedova e per mantenere i figli po' Breaking Bad. Esatto, spaccia, sì, ma viene prima però, quindi spaccia marijuana praticamente. E la sigla secondo me era indicativa di quel telefilm, perché faceva proprio vedere il fatto che noi viviamo in delle scatole in maniera omologata, comunque tutti i quartieri sono uguali, tutti i prati sono uguali, tutti i vialetti sono uguali e tutti si comportano nella stessa maniera. Questo è un po' il principio. E quindi quando loro vedono, che ne so, un film che veramente per esempio gli Oscar ovviamente non sono il festival del cinema a livello globale, sono il festival del cinema per gli americani, che poi dopo includono una sezione straniera dove fanno vincere ogni tanto tal film o tal'altro film. Poi se proprio gli piace ancora di più sorprendono e se lo rifanno completamente da capo, come è successo con Uomini che odiano le donne o... Se pensi a Wiz, che hai nominato tu adesso, Wiz è basato sull'erba di Grace, che è inglese. Sì, cioè, esatto, la storia è la stessa, bravo. Quindi addirittura sì, anche quello, cioè, non come medium che... è tratto da Afterlife, che sì, è sempre la serie inglese. Come Life on Mars è tratto da Life on Mars. Esatto. Vabbè, qui stiamo divagando. No, vabbè, no, però cioè, per esempio hanno quella tendenza, ecco, l'esempio più grande è Sherlock, no? Cioè, nel senso che loro sì, si sono fatti la serie televisiva su Sherlock Holmes. Elementary, esatto. Che veramente, cioè, bestemmie su di te, cioè, nel senso, malevole imprecazioni di carattere, cataratte di fuoco. Non so. Ma sull'adattamento, ad esempio, in generale, da quanto mi hanno detto le persone che ho frequentato qualche giorno fa, eccetera, eccetera, mi hanno detto. Chi hai frequentato qualche giorno fa? No, scusa. Non posso fare nomi adesso. No, ero a casa di Fabio Bortolotti, appena nominato, mi ha detto che dipende che ci sono compagnie che sono più inclini a lasciarti una libertà maggiore nell'adattamento e altre che vogliono le cose fatte in una certa maniera, che è proprio una questione di fortuna, diciamo, di chi gestisce il progetto in base alla libertà che hai. Cioè, in certi casi sei costretto anche ad adattare un determinato dialogo in quella maniera, anche se non è corretto, poi ovviamente senza arrivare ai livelli di suonare gli scacchi, ecco, però dipende un po' da chi trovi, ecco. Sì, infatti a volte ti scontri veramente contro dei muri che sono inviolabili da quel punto di vista, quindi sei anche un po' costretto a mediare. Io ripeto, insomma, veramente massima solidarietà, ripeto. Pensa che a me piacerebbe fare, proprio perché mi hai fatto venire sto spunto, Carlo, ovviamente lo dico a te, sto di a Stefano, sto di a così in generale, non è che mi piacerebbe fare la storia del doppiaggio italiano del primo Guerre Stellari, cioè, ho talmente tante di quelle curiosità, perché veramente lì ci sono altre cose assolutamente inspiegabili, no? Nel senso, nella localizzazione, riadattamento e modifica dei nomi, ma poi tra l'altro senza ragione, perché poi non è che aiutano, sì. Capito, la guerra dei quoti, i sabipodi, le quote, cioè perché Predoni Tusca è più semplice di sabipodi? Sì, cioè, okay, scusa, più difficile, i droni con i quoti. Sì, anche i stessi R2D2, C1PO8, perché sembrava più esotico, sì. So, capito? No, allora C1PO8 è un modo, anche il modo in cui veniva trattata la fantascienza in Italia, cioè, nel senso... C1PO8 lo so io, C1PO8 è stato creato per fare la frase che dice C1PO8 stai bene, non sei rotto, non per sei fare rotto, rima, sì. per quella, secondo me è stato fatto solo per quel motivo lì. Se è stato fatto per quel motivo lì, a me sta bene, perché a me sta bene, però sì, ha delle cose incredibili sul doppiaggio, quello non lo scopriremo mai, esatto, vabbè. Non lo scopriremo. È andato, no, no, perché dici che sono morti quelli. Ma oddio, no, povera, sono portati nella tomba. Sono portati i segreti nella tomba. Vabbè. Comunque, un saluto agli amici di Dietrologia Videoludica da Davide Marzi, rimanete con noi. E quindi, appunto, rispetto... E invece, oltre che all'Italia, cioè Italia-America, America e altri paesi, per quanto riguarda il doppiaggio, che tu sappia, diciamo, come si lavora. Qui fa l'esempio del Giappone. doppiaggio giapponese, esatto. Che non so, ce n'è doppiaggio giapponese, è totalmente inesistente. Beh, sì, anche quello è una deriva un po', è interessante come mestiere in Giappone, il doppiaggio. Prima però di arrivare fino in Giappone, prima di prendere l'aereo, vorrei rimanere un attimo in casa, prendiamo il treno, arriviamo magari a Milano. E diciamo, ecco, accennavo prima alle varie industrie, alle differenze fra le varie industrie romana e quella milanese, che sono un po' le due industrie, se vogliamo, le definirei quasi concorrenti, ma concorrenti perché hanno due modi differenti, insomma, di approcciarsi al mestiere del doppiaggio. Non parlo di meglio o peggio, per carità, fuori da me, insomma, fare questo genere di apprezzamenti o altro rispetto a tutti i professionisti. Però vi dico che l'industria di Milano, diciamo, è quella specializzata nella gestione, appunto, di quelli che sono di quello che è il doppiaggio dei videogiochi. Loro sono, diciamo, entrano proprio in prima battuta su questo tipo di lavorazioni. Vuoi perché anche le delegazioni italiane dei clienti, appunto, delle società che lavorano con le software house stanno a Milano, quindi anche è un fattore logistico, insomma, che li lega a questo tipo di lavorazioni. L'industria romana invece è più legata a quella che è la cinematografia e la televisione, quindi film di circuito cinematografico, serie TV e via dicendo. E diciamo, ci sono delle differenze, fra virgolette, a livello di interpretazioni, anche se vogliamo. Qui a Roma si tende un po' a, si dice nel gergo del doppiaggio, a buttare un po', si cerca un po' di replicare, diciamo, quello che è il linguaggio comune, no? Quello che stiamo facendo anche adesso. Io quando ti saluto, Simone, dico ciao Simone, come stai? Non ti dico ciao Simone, come stai? Non metto a fare. Invece loro sono un po' più caratteristici. L'industria milanese è più, diciamo, magari legata a un discorso, essendo nata, diciamo, su determinati, avendo dato, insomma, tanto di sé, insomma, nei prodotti, appunto, di un certo tipo, appunto, come potrebbe essere le telenovelas, i cartoni animati, questo genere qui, è rimasta sempre questa un po' questa impostazione qui del lavoro. Rispetto all'industria romana, loro sono molto molto molto veloci, e su questo proprio non hanno niente proprio da temere, sono proprio delle ammiraglie che vanno spedite. Vabbè, nella loro filosofia, con chi è che ne parlavamo recentemente sul fatto che lavorano veloci, che in realtà non è la velocità che comunque porta alla qualità, però insomma è proprio una filosofia completamente diversa. Che poi diciamo, scherzando, l'altro giorno dicevamo, cioè, però loro vanno veloci perché gli dà la sensazione di lavorare di più, che non è manco detto che sia vero, cioè, come tipo di discorso. Vabbè, diciamo, al di là dei pareri, insomma, no delle battute, cioè, voglio dire, comunque, sì, al di là delle battute, comunque ripeto, è chiaro che loro, cioè, nel senso, secondo me è fisiologico, avendo fatto anche alcune esperienze nell'ambito del cinema indipendente e avendo lavorato, ho visto come si lavora qui, come si lavora lì, è chiaro che macinare non è sempre detto, insomma, che significa che stai a tirar fuori comunque. Sì, però guarda, loro riescono a farlo molto molto bene. Io in questo senso proprio nutro anche dell'ammirazione, non perché noi romani siamo lenti o che, però devo dire che loro funzionano molto su questo genere di prodotti. E qui ritorniamo al discorso che facevo prima sulla mole di battute che può contemplare un videogioco, una mole indescrivibile a volte. E sono lavorazioni che loro riescono a digerire, a smaltire in tempi veramente ragionevolissimi, per cui veramente competenze proprio strepitose sotto questo aspetto. Io sarò poco originale, però tra le due industrie tendo a preferire quella romana, al di là delle mie origini, appunto, romane. Però ho lavorato a mia volta, per carità, con attori doppiatori di Milano, di Torino, ci lavoro ancora, e comunque sono grandiosi, sono bravissimi, e niente da dire, per carità, per cui non è che faccio paragoni o okay. Però diciamo che non lo so, tendo così a preferire quella che è l'industria del, cioè anche per proprio una questione di aver cominciato appunto a lavorare in questo ambito, insomma, non come doppiatore ovviamente, come tecnico del suono, per cui ho assimilato quelle che sono le tecniche del doppiaggio dell'industria di Roma. Per invece tornare al discorso di prima, Giappone, fammi un esempio di un videogioco che è stato realizzato come doppiaggio a Roma e uno che magari è stato realizzato a Milano. Vabbè, Milano Mass Effect penso che... Allora, di videogiochi che sono stati realizzati a Roma ti posso dire per esempio Heavenly Sword di PlayStation 3, che tra l'altro è uno dei miei videogiochi preferiti da quel punto di vista. Non è stato fatto completamente a Roma, bensì, mi correggo, sono stati utilizzati dei doppiatori di Roma, se vuoi ti dico pure chi, perché mi ricordo abbastanza bene, sono stati utilizzati Chiara Colizzi, Ennio Coltorti, Cristiana Lionello, Roberto Pedicini e Nino Prester. Me li sono scritti, non sono autistico che conosco i numeri a memoria. Ma poteva anche essere, non c'è niente di male. Però no, beh, a parte che insomma non è che mai detto tutta la prima fila da curva, cioè, sud, insomma. Sono dei nomi così altisonanti che comunque te rimangono impressi. Non si faticano a ricordare, per carità. Però insomma, sentire delle personalità, tra l'altro io saluto con affetto Chiara Colizzi, che è una delle doppiatrici con cui lavoro molto spesso ed è una mia grande amica, la saluto, le do un bacio grandissimo. Anche noi la salutiamo, le diamo un bacio grandissimo anche noi. chiusa parentesi, insomma. E quindi praticamente insomma sentire questa quantità di e questa, anche questa qualità insomma di personaggi mi aveva veramente fatto esplodere la testa proprio. È stata forse la prima volta che ho sentito tutta questa, sembrava un cast probabilmente di un film. Comunque è stato un gran lavoro in generale quel gioco, sì, per quanto poi vabbè possa essere criticabile dal punto di vista. Ma secondo me è stato anche molto. È stato bastonato proprio, molto, però, anche molto bisfrattato, anche immeritatamente forse certe cose. Però se provate a riascoltarlo in italiano e vi esorto a farlo, vi esorto anche a chi ci sta ascoltando. Su YouTube si trovano tutti i full motion video in italiano. Esatto, anche volendo. Hanno fatto anche una serie animata molto carina su YouTube, credo che ci sia ancora, che è doppiata appunto anche da tutti i vari doppiatori che ho detto prima. Quindi veramente ascoltate e sentite le differenze, insomma, se riuscite a coglierle, non è detto, insomma, magari non. Tra l'altro stanno facendo il lungometraggio, abbiamo visto alcune scene anche con sì, grande visto, orrore sì. Purtroppo abbastanza sì. Mentre Heavy Rain, per esempio, presuppongo, insomma, visto e considerato che c'era Pino Insegno, Jason dai, Pino grande Insegno. Suppongo sì, che c'era anche questo non me lo ricordo, vabbè, un'attrice, sì, no, a parte Pino Insegno non è che il doppiaggio di Heavy Rain spiccava particolarmente, però no, infatti non particolarmente, vabbè, lì sai dipende molto dal hanno speso troppo per Pino Insegno, esatto. Alla fine però sì, ecco, anche lì Jason, perché pensano di gente rosticcia. Jason, vabbè, basta ragazzi, dai, facendo tutta la serata. Jason, aspetta che dato che Carlo vuole passare in America e in Giappone, c'è l'altra squattata, così scottiamo un po'. Sì. Vai. Sono Francesco Gavotto e voglio fare un saluto a tutti gli amici di Dietrologia Videoludica. Ci ho messo un quarto d'ora per dirlo, Datevi un applauso. Quindi dicevamo, la parentesi americana l'abbiamo vista prima, insomma, ho risposto alla tua domanda, Simone, e mi sembra che abbiamo archiviato, sì, diciamo, sì, quella sì, che sì, è abbastanza chiaro, la filosofia americana del doppiaggio, quindi diciamo è un pre doppiaggio, insomma, non saprei come chiamarlo, come definirlo, però è una cosa che è proprio loro, culturalmente loro. E nel doppiaggio giapponese i doppiatori giapponesi molto spesso sono gente relativa a, insomma, al mondo dello spettacolo, quindi al canto, pensiamo, ne so, alle idol giapponesi, a persone che magari sono modelli, comunque gente tra virgolette di spicco del, televisivamente parlando, cinematograficamente parlando. E i doppiatori in giapponese si chiamano seiyu o seiju, non so esattamente com'è la pronuncia giapponese, non me ne vogliate, insomma. E quindi anche loro hanno dei modi di fare un po' che noi definiremmo esotici, insomma, se non addirittura pittoreschi. Un esempio fra tutti, voi sono sicuro che conoscete la serie Naruto. Sì. Ecco, Naruto, la doppiatrice di Naruto, dico doppiatrice non perché mi sbaglio, ma perché è una donna, ed è una donna che si chiama Junko Takeuchi, che ha 42 anni, e mica niente, insomma, e doppia Naruto, che è un ragazzo, insomma, adolescente. Beh, si usano queste cose delle donne, no? Appunto, cioè, nel doppiaggio italiano le donne spesso fanno i bambini. I bambini, in particolare quelli che sentiamo nei videogiochi, sono sempre donne che fanno dei caratteri. Anche perché a un bambino doppia un bambino, se a meno che non è veramente un mostro. Sì. Beh, nella cinematografia in Italia è così: bambino bambino, sì. Donna donna, uomo uomo. O quel bambino che fa il doppiatore è me coglioni, insomma. No, no, vabbè, ma non crederti, i bambini sono strepitosi perché sono spontanei, non sono come gli adulti, non hanno bisogno di recitare, loro lo sanno fare, sanno benissimo farlo, insomma, non hanno bisogno di costruirsi personaggi, ok? Per cui è bellissimo sentir recitare un bambino. Io mi è capitato di fare dei provini a, insomma, bambini dove la struttura dove stavo prima, ed è bello vedere come si interfacciano col genitore, che nella stragrande maggioranza dei casi è un doppiatore, quindi gli lancia le battute, comunque gli dice come le deve fare. È molto bello vedere questa coesione fra direttore del doppiaggio e doppiatore bambino, o appunto genitore, doppiatore e bambino in sala. Quindi è affascinante, è affascinante vedere come si incollano loro ai personaggi che hanno in video. Alcuni proprio hanno un talento che magari purtroppo crescendo perdono. Un po' come però... Macaulay Culkin, no? Cioè... Però alcuni alcuni sono strepitosissimi, ve lo assicuro, sono cose, vabbè, insomma, non è che ve lo devo dire, basta che vedete un film o un cartone animato e sentite quanto possono essere bravi, insomma. Per cui sì, e... loro sono loro stessi, quindi giustamente sì. Io mi fido di quello che dite, non ci ho mai avuto sta sensazione, cioè, l'ho sempre sentita di sta cosa, però mi è sembrata sempre un po' artificiosa come affermazione, sta cosa dei bambini sono spontanei. Però vabbè, se lo dite io ci credo, nel senso, non c'ho motivo per negarlo, insomma. Sì, sì, beh, poi devi anche pensare che comunque se sei un bambino e arrivi in una sala di doppiaggio, molto spesso vuol dire che hai un genitore legato al mondo del doppiaggio. Ah, beh, questo è probabile. Se hai un genitore legato al mondo del doppiaggio, vuol dire che magari ci sei entrato in una sala di doppiaggio, sai come funziona, hai ascoltato i grandi fare doppiaggio. E non è detto che ovviamente debba piacere, per carità, insomma, ci sono ragazzini che figli di doppiatori e doppiatrici che fanno e vogliono fare tutt'altro nella loro vita, assolutamente non è una cosa diretta, insomma, non è un passaggio di testimone, però è ovvio che magari un ragazzino che sta in sala di doppiaggio e sta lì, ascolta, e oggi e domani e dopodomani, alla fine comunque l'orecchio gli si fa, per cui a quel punto sei avvantaggiato, non è che sei uno che viene preso sprovveduto e viene buttato in sala così per la prima volta e dice: oh mio Dio, che è sta cosa? Quindi è ovvio che un minimo di anche di genetica, insomma, cioè ce l'hai per quel tipo di mestiere. Quindi poi sta ovviamente a te decidere se continuarla oppure no, questa vocazione. Certo. No, no, però vabbè, molti veramente, cioè, stavo a pensare proprio al ieri sera, ci stavamo guardando The Walking Dead, no? E c'è il ragazzino che chiaramente fa il ragazzino, anche se secondo me col passare del tempo sta un po' perdendo Tito Martello, bravissimo, lui è strepitoso, gli sta cambiando la voce, esatto, che paradossalmente poi incompatibilmente col personaggio, cioè, no? Perché se ci pensi comunque il personaggio pure sta crescendo, no? Sì, no, infatti è fantastico. Però secondo me sta un po' perdendo lo smalto, insomma, che c'era magari quando era ragazzino, magari è solo una fase di metamorfosi, sai, insomma, è un po' particolare. Però ecco, veramente mi fanno impressione, insomma, perché sono veramente bravi, eh. Poi sicuramente sì, sì, no. Lui e sua sorella sono veramente due bravissimi, veramente della loro età nell'industria, veramente applausi proprio. Ma e quanti anni ha il doppiatore del ragazzino? 60. Povero Tito, credo che abbia o 13 o 14 anni, non vorrei dire scemenze, non quindi lo so. Penso più o meno della stessa età del sì, sì, di... adesso non sono sicuro, però sì, il problema è che sulle serie televisive è che, sì, che i ragazzini crescono a dismisura rispetto alla storia che raccontano, no? Però esatto. È chiaro, sì. È inevitabile perché lo so, succede a tutti prima o poi. Lo fanno, infatti, sì, sì. Anche perché dargli, cioè, diciamo, ridurre il loro accrescimento attraverso gli ormoni non è una cosa bella. No, io sono d'accordo comunque. Cioè. Sì, sì, dovrebbe fare, assolutamente. Però, so, mi rendo conto che magari il genitore potrebbe non esserlo, ma questo è un'altra questione. Anche se in realtà forse ci sono genitori disposti a tutto, ma questa sì. È un'altra puntata. Va bene, potrei raccontare cose. Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, da ragazzi. Da genitore. No, ma che da genitore. Ma che da genitore. lasciamo stava. Come diceva quello. Quello come che fai provini, come si chiama? Sì, sì, esatto. No, vabbè, noi poi vabbè, abbiamo fatto un cortometraggio indipendente in particolare, mi ricorderò sempre sta scena. Non dico cortometraggio, non dico chi e come e perché, però insomma, ciao, sono qui per provino. Vabbè, facci vedere quello che sai fare, tutta nuda. Lui fa il fake agent. Allora vabbè, ma non c'è bisogno, insomma. Però vabbè. E poi vabbè. Lui fa il fake agent praticamente. Sì, io se vabbè, magari. Dai, dillo Pizzi che è il lavoro di giusto. No, grazie. Per carità, guarda, anzi era una cosa che io i provini era proprio l'ultima delle cose, perché per me avrei insultato chiunque. Ah, ecco. Sì, sì, io so proprio c'ho l'odio più radicale per le semplificazioni esistenziali. Cioè, pensavo per i bambini. No, ma le persone che vengono lì e pensano di semplificarsi la vita facendo una cosa piuttosto che un'altra, per me si meritano insulti spropositati. Quindi, ma poi so poi io che sono un po' vecchio dentro, capito? Quindi, comunque, ritorniamo al nostro discorso del Giappone. No, il Giappone abbiamo detto. Il Giappone sì. C'è gli anziani che doppiano bambini. Da noi bambini che doppiano anziani e così via. No, chiaro, no, bambini che doppiano bambini. Ma io direi a questo punto, non lo so, possiamo parlare della questione lingua originale, lingua italiana nei videogiochi? Cosa ne dite? O Carlo? Sì, prima vorrei fare una domanda a Carlo. Fagliela, magari se, certo. Ma sì, so, per tua conoscenza, cos'è? Quale lingua è più difficile da doppiare? E che cazzo di domanda è? No, guarda che di tutto il processo io intendo, sembra tutto il processo. Ma lui fa il sound designer e lavora con l'italiano, che cazzo ne sate come sì. sa un po' di tutto, sarà informato, insomma. Vabbè, rispondi, no, Carlo, mi piacerebbe poterti rispondere, ma non sai un cazzo, vedi qui non sai un cazzo. Allora, fai una domanda. Allora questo mogacci, scusa. A me sta bene che... No, non ho idea, insomma, però devo dire che già l'italiano è una bella gatta da pelare, quindi non mi immagino le altre lingue. No, io dicevo come traduzione, come di adattamento. Cioè, non ho capito, doppiare, scusa Marco, che ne so, doppiare film inglesi, doppiare film giapponesi, doppiare film cinesi. Ah, tu dici qual è più difficile? Ah, ho capito. Allora, ti traduco la domanda, che forse non era chiara, in effetti non era chiara manco per me. Nella fase di doppiaggio italiano da tutto, prodotti di altre lingue. Quali prodotti sono più difficili? Che ne so, quelli che vengono dalla Germania, quelli che vengono dalla Cina. Io ho una mia idea, che è questo qui, i cinesi. Che sono più difficili da adattare. Ma sai, dipende. Lì dipende da chi ci lavora, dipende da come ci lavora, dipende da che tipo di budget, tempistica c'è. Non è che c'è una regola, quelli cinesi sono difficili, quelli inglesi sono facili. Anche un film inglese può essere difficile perché magari ha un adattamento molto elaborato da proporre in italiano, perché magari ci sono 20.000 giochi di parole. parole, 20.000 slang che devi in qualche modo riuscire a far suonare in italiano. Suonare se uno scacchi, fa una battuta e dice, che ne so, una cosa che fa ridere solo in inglese o in francese, che so io, tu devi prendere quella battuta, la devi in qualche modo trasfigurare in italiano, e lì c'è il talento appunto del Trepizzi che farebbe per me. Trepizzi trasfigura la sua persona, trasfigura il muco. Vabbè, ma non mi rompete il cazzo, fate finta di niente. Scusa, il microfono almeno. Esatto. L'ho fatto fino adesso, ma mi sono dimenticato. Se vuoi anche ruttare. No, quindi non so, cioè la domanda è non lo so, sinceramente. Non no, io so penso che magari c'è stava, questa veramente poi chiudiamo. Che la frase in cinese, che ne so, i suoi, magari significa ciao. È una frase che in italiano è due volte più lunga, quindi è più corta. Sì, sì, anche. Certo. Quello deve essere un dramma. Mentre che bene o male l'inglese, nel senso anche abbastanza con standard. Cioè sì, è abbastanza standard come lingua, come tutte le lingue indoeuropee, voglio dire, poi alla fine, quindi cioè nel senso che più o meno collidono, no? E diventa più una questione di assonanza il problema del doppiaggio, secondo me. Poi ecco, ci sono lingue che proprio sono completamente diverse e quindi è ovvio che presentano problemi maggiori, ma lì secondo me più che nel doppiaggio è proprio nell'adattamento che diventa sì, il problema. Certo, cioè, certo. Tu a questo gli devi fare di sta frase qua, cioè nel senso Zio, ma ciao, dura 20 secondi la parola che io esatto, dico. Sì. Sì, sì. E secondo me tante volte noi ci inventiamo dei modi di dire proprio per compensare cose che sì, assolutamente sì. Non sai quanto spesso questo viene. No, non me lo immagino, me lo immagino perché... E quando funziona vuol dire che l'adattatore ha fatto un lavoro eccezionale, un lavoro, certo. E quindi no, quello è veramente va lodato quando appunto noi sentiamo, in qualche modo riusciamo a capire bene, riusciamo ad apprezzare, a divertirci su un film, su un adattamento che culturalmente è completamente diverso dal nostro. I film americani lo sono senza dubbio, perché comunque il loro modo di dire, anche il stesso modo proprio di emettere la voce, tutto il resto è una cosa che ha profondamente cambiato tantissimo anche il doppiaggio italiano stesso. E tutte quelle inflessioni che noi non diremo mai in italiano, tipo per esempio cominciare la frase con ok, quelle cose lì noi non ce l'abbiamo proprio culturalmente, però il doppiaggio italiano è cambiato assecondando quel genere di inflessioni lì. Sì, sì, traducendo alcune assonanze in americano, ehi amico, cioè noi ehi amico, che cazzo c'è? Massimo poi di capo, no? Cioè nel senso ci sono comunque dei modi di dire che diventano pure prendi quel cazzo di pistola, cioè nel senso non parliamo esatto, così, no? Sì, chiaramente, sì. No? Sì, sì, sì, esatto. Però cioè nel senso è chiaro che per stare all'interno, anche per dare poi un valore espressivo, chiaramente, non è solo una questione di traduzione. Sì, assolutamente. Comunque devi dare quel tipo di espressione, che quelli parlano in quella maniera lì. Tant'è che infatti ci ricordiamo i film degli anni 60 e 70, i film americani venivano doppiati forse ancora più marcatamente, no? Ancora, sì, esatto, erano proprio artefatti, no? Nel senso nella traduzione italiana, i teatrali però. Esatto, teatralizzati, no, che infatti per un bel po' di tempo era a Wanagana che vuoi fare l'americano, capito? Cioè che non era, invece quelli dicevano nei film western, sei un figlio di buona donna, quello diceva fuck a maga, motherfucker, vabbè scusa, motherfucker, no? Father, father, father, mother, father, mother, che è il protagonista di un videogioco. Il cazzo su un errore che ha fatto uno, father, mother è comunque il protagonista di un videogioco, vediamo chi lo indovina. Sì, bravo, aspetta, come si chiama il padre madre? Oddio, non mi ricordo il titolo. Barbie gira la moda. Esatto, vomitatrice di arcobaleno. Esatto. No, non mi viene il padre madre. Cioè, Pizzi, come si scurrila però comunque. Cioè. Vabbè, però mi avete fatto rode. Vabbè, vogliamo squattare, poi andiamo al prossimo punto. Nel frattempo sì, che qualcuno ci dice come si chiamava il gioco. Non esageriamo con la cosa che diciamo che squattiamo, perché poi non sappiamo se ci sono finiti. Se ce ne sono abbastanza, ma sì. Esatto. Se no ci mettiamo un intermezzo musicale. Se no mettiamo una sigla. Mettiamo la sigla una signora che doppia l'italiano. Se no mettiamo Father Mother. Father Mother, ok. Un caro saluto a tutti gli amici di Dietrologia Videoludica da Massimo Corvo. Restate con noi, non ve ne andate. Andiamo avanti e adesso vi faccio una domanda io. visto che ho parlato fino adesso, mi sto un po' zitto perché c'ho la gola secca, forse mi prendo pure un bicchiere d'acqua quasi quasi nel frattempo. No, vai con la birra, tanto Biggio lo fa spesso in trasmissione. Si trangugia e toglie bene l'acqua. È astemio, sì, astemio. Io sono totalmente astemio. Quindi diciamo, ecco, prendendo in esame tutti questi fattori che ho, tutte queste carte belle che ho sparpagliato sulla tavola, diciamo, ideale di questo podcast. Durante la vostra esperienza videoludica, quanto incidono gli errori, tra virgolette, di interpretazione, di fuori sync, di mix, di dizione, dei doppiatori all'interno del videogioco? Ci avete mai fatto caso a queste cose? Quanto incidono questi fattori sul videogame che state giocando? Parto io. Faccio questa domanda a rotazione, rispondete. Parto io, va. Allora, su quelli macroscopici, ci sono stati tanti giochi che avevano proprio problemi anche di volume, come dire, proprio del livellamento del volume delle voci di uno rispetto a quell'altro. Quindi non parliamo di mix o del disegno del suono in sé per sé, parliamo proprio dei problemi macroscopici. Chiaramente, vabbè, insomma, penso che ce ne siano e siano abbastanza macroscopici, ce ne siano stati. In linea di massima, secondo me, negli ultimi periodi non è che ci stanno, poi, perlomeno da quello che è il mio orecchio, non ci sono grosse problematiche, se non ovviamente quei difetti dovuti da doppiaggi ancora di medio livello, diciamo così, che a volte si sentono un po' degli intercalare un po' strani, che sono diversi da quelli che si è abituato a sentire al cinema e in televisione, e quindi di conseguenza magari li noti di più. Adesso magari qualche esempio mi viene un po' difficile. Mi viene da pensare invece a The Last of Us, che c'è nella fase di gameplay c'è un gran casino. Sono dei momenti in cui probabilmente anche per la tridimensionalità del suono, se tu giri l'inquadratura, giri l'angolo, quello che sta parlando è come se foste a 10 metri, 100 metri di distanza. Cioè, sono delle cose un po' strane, non so se vi è capitato o se però magari l'avete giocato. Quello però non è tanto magari una cosa di doppiaggio, è proprio di... Sì, anche tecnica, insomma, sì. Ma probabilmente se uno l'ha giocato col Dolby Surround non l'ha manco sentito sto tipo di problema. Chi l'ha giocato magari in stereo con le casse del televisore magari l'ha sentito di più, cioè nel senso che ci sono problemi di questo tipo. Secondo me, ecco, l'unica cosa è quella che gira i rotelli. Sì, è Biggio. È vero. Secondo me il problema più macroscopico è sempre la cosa di Piero Ubaldi, che anche nei momenti più drammatici ti sbraga proprio la, perché ti viene in mente Marrabbio e quindi quello è un problema, vedi, quello che dicevi, è che alla fine ci sono sempre gli stessi doppiatori, allora cosa fai, usi talent? Lì, cioè alla fine lo riconosci, sai che lui, e lo associ a un'altra voce e poi perde, cioè se lo senti, non lo so, mi pare che avesse doppiato anche qualcosa in Gears of War, mi pare. Sì. Giusto, cioè, ricordo. No, ma ogni tanto sbuca fuori la voce. Ecco, cioè io in Gears of War mi rompe proprio tutta la... Capito, cioè, la cosa, il cioè, gioco violento. Non perché lui, e ribadisco ancora una volta, per me dal punto di vista tecnico è sicuramente ed è espressivo, è sicuramente un professionista coi controcoglioni. Il problema è che tu, con quel tipo di voce molto particolare che lui ha, lo associ a determinate cose, e vederle in un altro, sentirle in un altro contesto, ossia quasi tutti, perché poi nel mondo dei videogiochi, quando sono scene drammatiche, gente che muore, esplosioni, ehi, andiamo di là, cioè, capito? No, ma io penso anche chi cazzo, cioè, almeno che lui proprio non c'ha lo strapotere, quindi nel senso comanda lui. Mi sa che ultimamente ce l'ha, però. Perché insomma, voglio dire, cioè, nel senso, l'abbiamo sentito veramente oramai quasi. Cioè, c'è un videogioco. Cioè, c'è un videogioco, un cartone animato che non ci sia. Ma nel cartone animato va bene, cioè, nel senso, per me ci sta. È caratterista lui. Ma anche negli spot pubblicitari, cioè, nel senso, quando. Però è tutto talmente macchiettistico che se lui dovesse interpretare, come abbiamo detto, Gongora, no? In Lost Odyssey, come ne abbiamo parlato pure con Peppe Saso. all'inizio può essere anche che ci sta, perché vabbè, sì, ok, anche quello è un pseudo cartone animato, diciamo così, perché comunque c'ha questa suo aspetto giapponese, che poi comunque alla fine lo associamo ai manga, agli anime, quindi in linea massima. Però poi alla fine ci sono delle parti di cattiveria, di drammaticità, che secondo me non che non è capace, ma proprio perché non sta nelle corde, capito? Però vabbè, questo è. Per quanto riguarda il discorso di determinati errori proprio particolari, su dizioni o mixaggio, roba del genere, negli ultimi anni, grosse particolarità, insomma, a parte una cosa che poi verrà citata anche dopo nell'intervista, e anche una cosa similare, perché comunque ha la figlia di quello che poi viene citato nell'intervista, insomma, cioè, nel senso, ecco, quando si utilizzano questi personaggi a fini di puro marketing e li butti all'interno di un doppiaggio, stona quando è un pezzettino, figurate quando poi diventa, che ne so, un protagonista intero di un videogioco, che a quel punto diventa quasi drammatico, per quanto poi alla fine forse più sostenibile. E sto parlando ovviamente di Asia Argento, come si chiama il gioco? Mirror's Edge. Però ricordiamoci sempre, ma anche il padre, ciò dirà dopo, sì. Ed Erky. Eh no, vabbè, ma quello appunto, siccome viene citato dopo, certo, nell'intervista, no? Dentro cosa? Dentro la navicina dei Sette, i maccheroni, ho fatto la pagliata. Ci stanno i necromorti con cavagliata. Cioè, stanno i necromorti, ci ho fatto due bucatini. Siamo due spaghi a parte dei necromorti. Portacci loro. Portacci loro sti necromorti del merda. Ma diciamo che questa è una domanda che volevo fare io a voi, perché ovviamente io da professionista del settore più. È ovvio che magari vuoi anche per deformazione professionale, insomma, un errore su di dizione, diciamo un'interpretazione un po' farlocca, o un fuori sync, o ovviamente il mix un po' sfasato di un videogioco mi manda i matti letteralmente, per cui volevo capire, insomma, quanto fuori sync, forse sì, ce ne so, forse so più fuori sì, sync che altro tipo di errori magari da me percepibili. Fuori sync sì, vabbè, ce ne so. Fuori sync a volte, cioè, dipende, ecco, Marco, vai. Non so se poi dipende dal doppiatore o se nel montaggio del doppiaggio nel videogioco, cioè nella sostituzione delle lingue, cioè qualche impiccio, cioè, in realtà non è che si capisce bene da chi dipende il fuori sync, insomma. Però sì. Beh, generalmente quello dipende sempre da tutto un insieme di fattori, perché, ripeto, insomma, il doppiaggio di un videogame in Italia viene fatto ancor prima che il gioco venga completato, quindi lì basta che, per dire, cambiano una battuta in lingua originale o cambiano i tempi di labiale, possono cambiare tantissime cose, no? Perché stai facendo comunque una cosa in corso d'opera, per cui non puoi contemplare, sì, il fatto. Però che, scusate, e magari non hai tempi di recuperarla questa cosa, per cui questo magari però è un problema che era secondo me più sensibile quando le scene delle cutscene erano, in particolare le cutscene, erano precalcolate. Adesso sì, che le cose vengono fatte quasi tutte col motore di gioco, con l'autosyncing, con l'audio, in teoria, cioè, voi dice, ho tecniche, in teoria vederlo oggi è ancora meno giustificato rispetto a prima, perché prima veramente poteva essere, come dice Carlo, cazzo, sono durato 0,30 secondi di più e mi è andato fuori dal biroccio. Però, cioè, voglio dire, nel senso, oggi è ancora più grave, perché oggi purtroppo è tutto quasi calcolato in real time. Però vai a vedere se è un problema di doppiaggio, se è un problema proprio che magari gli si è sputtanato il programma in quel momento, cioè, nel senso, non lo so, però voglio dire, cioè, il lip sync lo fa pure Poser, cioè, voglio dire, raga, non se stiamo a... Sì, però l'automatismo complesso ti viene incontro fino a un certo punto in una lavorazione di questo tipo, non puoi farci affidamento, no, però completamente. Stavo sempre a parlare di produzioni, ok, no, che costano di qualche svariato milione di dollari, e ti aspetti, insomma, che ci sia quantomeno un affinamento, no? Nel senso, vabbè, è un discorso un po' particolare, magari ci ritorniamo, sì, un'altra volta. Sì, vai, diciamo, Marco, scusa. Per quanto riguarda errori, sì, ci faccio caso, però io non, lasciando stare appunto il chi si salverà delle forze del mare, cose del genere, insomma, forse perché ci sono cresciuti col doppiaggio italiano, del videogioco, quindi sono partito da appunto da Snake, cose del genere, fino arrivando ad oggi, che oggi sono, è il capolavoro, certo, che è capolavoro. Ci sono arrivato piano piano, quindi probabilmente anche questo mi fa storcere il naso fino a un certo punto, perché poi alla fine sì, sto giocando, sento che magari la voce non si azzecca niente, c'è qualche errore, però quasi me l'aspetto, quindi mi dà fastidio, però non è che lancio il mouse sul muro e bestemmio il doppiatore di turno. È ovvio che poi magari, cioè, certe cose mi rimangono impresse, insomma me ne ricordo, però lì per lì non è che mi disturba più di tanto il gioco, cioè io continuo, insomma magari ci faccio pure la risata, però insomma non... Quindi non avete mai ricorso ai sottotitoli? Perché avete sentito magari uno di questi errori? No. Ah, cioè nel senso, se in corso d'opera quel tipo di frase o quel tipo di espressione ti ha fatto venire la voglia di cambiare lingua? No. A me sì. No, a me non mi è mai capitato, no. A me io lo dico. Vabbè, però tu c'hai anche una formazione professionale, esatto, cioè. Tu non sarai mai contento. No, infatti sì, purtroppo sì, per me è più difficile approcciarmi a questo tipo di mondo, insomma, perché lo faccio sempre con un orecchio critico. Cioè, oggigiorno anche alcuni spot televisivi non si possono sentire, detto fra noi. Cioè, ce ne stanno svariati dove a un certo punto sentono voci che dici, ok, come diceva il buon Ferretti, data a qualcuno, perché se non si spiega. Oddio. Nel senso che comunque però è chiaro, al di là le cose, ribadisco, macroscopiche, per chi è un tecnico, chi è un professionista, cioè certe cose so noi magari, cioè a un certo punto sì, oh cazzo, quello ha fatto, gli è scivolata la R, ok, ci posso fare una risata sopra, sti cazzi, no, non è che mi ci metto lì, oddio, ma sta cosa mi distrugge l'anima, a me non mi succede, insomma, non so, vabbè, Stefano il problema non se lo pone, perché lui li gioca tutti in sanscrito i giochi. No, allora, se posso li gioco in lingua, no, in lingua originale, no, non in inglese, certo. In lingua originale, e poi sottotitoli in italiano o in inglese, sì. Okay. Basta, quindi, tutto qua. Quindi tu, che ne so, come si chiama la battuta lì? Ibn battuta, tu l'hai giocato in arabo. Che cosa state parlando? Sei proprio l'ultimo degli ultimi, però ci sarà presso un film. Non ho capito di cosa siete dicendo. Ibn battuta. No, aspetta, è un gioco. Unhearted. No, si pronuncia Unhearted. No, Uncharted. Unhearted. Vattelo a cercare. Sono Acuci the Heartless per PlayStation 1. Sto iniziando a fare confusione. No, credo che neanche tu conosca la tigre. Aspetta, ma cosa dicevano in Unhearted? Cioè, qual era? Allora, vabbè, spieghiamo. Unhearted è un gioco prodotto negli Emirati Arabi. Nell'Emirazia. Che è stato, tra l'altro, distribuito prima su PlayStation Store. Senza un motivo reale. Fatto con Unity, diciamo, insomma, una produzione medio piccola, insomma. Amatoriale. La cagata, insomma. Che fa il verso a Uncharted, ok? Infatti si intitola Unhearted. Bene, no, purtroppo... No, guardatelo, perché è interessante, nel senso lo che... Lo so, vai, aspetta il video che faremo. Noi poi escerà un video, insomma, su dietrologia videoludica. E quello è, essendo arabo, te lo devi giocare in arabo, allora. Me lo giocherò in arabo, se... Ma qual è il senso? Cioè, nel senso di imparare l'arabo. Di giocare in arabo? No, beh, cioè, se il gioco è stato concepito in una determinata lingua, e anche, metti, non lo so, il lip sync. A me dà un sacco di fastidio quando il lip sync è, ad esempio, basato sull'americano, per dire, però è doppiato in italiano, cioè, la cosa più semplice del mondo, no? E io vedo le labbra che si muovono per dire parole in americano, in inglese, e la voce che dice un'altra cosa mi dà un casino di fastidio. Ma anche con il giapponese, cioè, se il parlato giapponese, non è che vedi film giapponesi, vedi cartoni animati giapponesi, non è no, ma anche nei videogiochi, tipo cosa, come si chiama, il gioco di ruolo, Xbox Fantasy. 360, Last Odyssey, ecco, sì, Last Odyssey, sì, ok. Quello che è giapponese, io l'ho messo con la lingua giapponese e i sottotitoli, cose in inglese, in italiano, ma non mi ricordo comunque com'era. Perché, boh, appunto, il labiale seguiva il giapponese e mi dava fastidio. Non lo so perché, è una mia deformazione. cioè ne hai tante di deformazioni, questa è una delle tue deformazioni, è una delle tante, quindi ragazzi so che mi volete bene. No, io ti capisco perfettamente Stefano, cioè anch'io comunque tento sempre di ascoltare quello che è il in qualche modo il, come dire, proprio l'opera originale nella sua proprio interezza, e ovviamente è una cosa che tendo a preferire con i videogiochi e non con i film, perché so, diciamo, e adesso anche voi lo sapete, insomma, a quelle che sono le differenze sostanzialmente, insomma, fra i due tipi di lavorazioni, insomma, fra quelle che sono le limitazioni del doppiare un videogame. Quindi, insomma, sì, è una cosa che io preferisco generalmente, però ripeto, chino il capo con rispetto, perché attorno a me da un bel po' di tempo a questa parte vedo delle opere di doppiaggio eccellenti rispetto al passato, per cui penso che in questo senso si stia realmente facendo qualcosa di buono. Sì, anche se io però mi fa piacere, comprendo il discorso che fa Stefano nel momento in cui mi guardo un film di Kinky Duck, no? Allora c'ha un senso, perché comunque io entro in una cultura, mi guardo un film in coreano con i sottotitoli in italiano, perché comunque vedere quel film magari in italiano non avrebbe lo stesso senso, no? Nel senso, cioè, mi leverebbe comunque quella parte di immersività, magari, che comunque è più naturale che... Ma in un videogioco che è già di per sé un'opera di doppiaggio, tra virgolette, poi doppiaggio, perché abbiamo detto in realtà probabilmente non è neanche il termine adatta, a meno che non c'ha un senso, tipo che può essere, che so, GTA, che comunque è costruito intorno a una cultura, uno slang o roba del genere, allora lo posso anche comprendere. Ma quando parliamo di opere standardizzate come Mass Effect o no, se io me lo sento in inglese o me lo sento in italiano, se il doppiaggio in italiano è fatto comunque bene, cioè, no, non me ne frega un cazzo, perché non c'è un motivo neanche culturale, neanche estetico, neanche cioè non c'è nessuna motivazione reale che mi dice ok, veditelo in americano piuttosto che veditelo in, cioè ascoltatelo in americano piuttosto che in italiano. Questo poi ovviamente dal mio punto di vista, per carità, non è che, però insomma, ecco, ribadisco, ci sono determinate opere che c'hanno c'ha un senso che te l'ascolti in francese, che te l'ascolti in coreano, te l'ascolti, cazzo ne so, cioè anche in portoghese, no? Magari qualche film brasiliano indipendente, quello bel genere, comunque c'è una sua musicalità, c'è un suo senso in quella maniera lì, che ovviamente in italiano perderebbe completamente, perché non è riproducibile, no? Comunque, vabbè. De gustibus, sì, sì, per carità, no, io infatti non è, però capito che voglio dire, sì, nel senso, sì. Non è che io non condivido la tua posizione, la condivido, è che è estrema secondo me in un'opera che già di per sé è un'opera di doppiaggio, no? Ok, e come dicevo io, il film della Disney, che è comunque un'opera standardizzata come lavoro, cioè non riesco a vederlo in italiano, perché secondo me perde il sapore di quello che è lo spessore, cioè è una stronzata, no? Nel senso, per dire, è stato creato in quella lingua, lo guardo nella lingua in cui è stato creato. Sì, sì, no, vabbè. Cioè, nel senso... è una deformità, così. una deformità. Le sue deformità. Deformità sono un po' male adesso. E allora, ripassiamo la parola a Carlitos Way, chissà se l'abbiamo soddisfatto con queste... questo molto, nostro dibattito, dire, no, politico. Ci tenevo a sapere, insomma, a conoscere la vostra in merito a questa cosa, insomma, in ovviamente io sono il caso più clinico di tutti voi. Bene, bene, allora dai, io direi di proseguire con un po' quella che è la, in qualche modo un po' la punta dell'iceberg della trasmissione. Adesso ci andiamo a sentire una bella intervista che ho fatto io ad Alberto Angrisano, e che dura soltanto un'ora e 25 minuti. No, dura 14 minuti, così dai, la gente si spaventa, non vi preoccupate. E è un doppiatore con cui io lavoro spesso, lavoro da tanti anni, è una persona molto molto simpatica e brillante, lo posso definire. E lui è doppiatore di Idris Elba, doppiatore di, non so, ne ha fatti veramente tanti, il suo curriculum è abbastanza gremito. L'ultimo film dove probabilmente l'avete sentito, se siete andati al cinema di recente, appunto, è Idris Elba su Pacific Rim, ma anche su Thor ho visto, Heimdall. Sì, esatto, anche su Thor l'ha doppiato. No, ho visto che ha fatto un sacco di roba, tra l'altro anche invece Star Wars. Anche vabbè, ma sentendo l'intervista la riconosci la voce, cioè una sì, voce... Sì, è una voce molto bella. Storica e bella, tra l'altro. Ha fatto delle voci senso... in quell'intervista lì, che, cioè in questa intervista qua che andremo a sentire. Che... Tutti e due, sì, pure, sì, quello sì. Che, pure quello che fa le domande. Pure quello che fa le domande, ma proprio... non ascolta, fa le domande, poi. Impostato, hai sentito come... Adesso, sentite, sì, sì, sì, sì, sì. Ero molto, diciamo, mica come qua che sto a casa. Esatto, ma poi, cioè, fatto con i microfoni, cioè, con i mixer, mica, come, cioè, capito? Cioè, mica che cazzo, no? Mica pezzi di fighi. Sarebbe figo una volta, faccio una puntata con quelle robe lì, però sarebbe... Vabbè, vediamo poi. Come minimo sarebbe intrusione illegale. Sì, anche io penso, sì. Benissimo. Quindi lanciamo l'intervista ad Alberto Angrisano e buon ascolto. Ok, cominciamo con una domanda a bruciapelo. Cosa ne pensi del mercato videoludico? Come giudichi il fenomeno sempre crescente del videogioco a livello mondiale? Beh, il videogioco a livello mondiale è un fenomeno chiaramente in crescita esponenziale, anche perché il solo fatto che vengano poi rimessi su piattaforma gaming film come Thor, film come Pacific Rim, insomma altre saghe importanti, è un fatto estremamente positivo. Un mercato in crescita, un mercato in espansione micidiale, che ha miliardi di proseliti, nel senso che poi con l'uscita di queste nuove piattaforme, la Xbox One, la PS4, questa nuova Wii U, che pare che abbia dei prodotti bellissimi, credo che sia un mercato, insomma, del quale io sono uno dei, un fruitore appassionatissimo. Tu quale console possiedi? Io posseggo una Xbox 360, una PS3, ma tra un po' possiederò una Wii. Mio figlio possiede la Wii. Tra un po' prenderò la PS4 e la Xbox One, perché sono un malato terminale di queste piattaforme. E qual è l'impatto che i videogiochi hanno sul tuo stile di vita? Se dovessimo usare una scala da 0 a 10, sicuramente 10. Lo trovo comunque un modo per scaricare la tensione della giornata, un modo anche per socializzare, se vogliamo, forse solo per il fatto che per alcuni giochi gioco con mio figlio. È un modo anche per godere di tutto quello che è la tecnologia, godere di quello che è il gioco fine a se stesso, il gioco stesso, che a volte è un gioco che ti appassiona, che ti coinvolge anche emotivamente. Per me le console sono un pezzo irrinunciabile dell'appartamento, un pezzo irrinunciabile della mia vita. Quali sono i generi videoludici e i servizi che prediligi quando utilizzi le tue console? Beh, i servizi che sto apprezzando ultimamente sono quelli praticamente del pagare online alcune cose. Per esempio, io da quando ho cominciato la saga di Assassin's Creed, arrivando fino a Black Flag, che è l'ultimo arrivato, ho acquistato dei servizi online, quindi dei potenziamenti, delle nuove storie, e ho potuto aumentare la capacità di gioco, la durata del gioco, eccetera eccetera. Questo è un servizio interessantissimo, perché con pochi euro, stando comodamente da casa, tu fai degli aggiornamenti, prendi le cose in più e il gioco continua. I giochi che preferisco sono quelli tipo appunto Assassin's Creed, giochi nei quali io posso entrare con, non nel caso di Assassin's Creed, ma per esempio nel caso di Gears of War, entrare con un M16 in braccio e con 200.000 altre armi diverse per scatenare la rabbia e la violenza sul videogame. Non amo i giochi cervellotici, non amo i giochi dove ci sono poche armi. A volte amo anche i giochi ripetitivi, come appunto Black Flag, perché è un gioco ripetitivo, però la collocazione del gioco, il modo in cui si gioca, le cose che bisogna fare, le trovo molto interessanti. Ok, spostando il punto di vista verso un settore più tecnico, quali sono le differenze sostanziali tra doppiare un videogame e doppiare un film? Ma le differenze artistiche sono notevoli, nel senso che nel doppiaggio, come tu ben sai, hai davanti l'attore o hai la voce fuori campo in cuffia, nel caso dovessi fare un oversound o un documentario, e riesci bene o male a orientarti, anzi sicuramente riesci a orientarti meglio che non quando doppi un videogame, che hai di fronte sullo schermo magari un disegno, una foto del personaggio che stai doppiando, ma hai delle forme d'onda che ti scorrono davanti. delle forme d'onda e la voce di un doppiatore straniero che l'ha già fatto, alle quali devi adeguarti, ma sicuramente questa cosa qui non è non aiuta sicuramente il doppiaggio, per quanto stiano cominciando a migliorare i doppiaggi dei videogames, di alcuni videogames. La difficoltà più grossa è questa qui: cercare di andare a sync con una forma d'onda e con un suono che a volte potrebbe scollare, perché succede, qualche volta è successo. Questa è una grossa pecca, secondo me. Viste le differenze fra i due tipi di lavorazione, com'è possibile immedesimarsi nel personaggio di un videogame neppure visibile sullo schermo durante le fasi di doppiaggio? Guarda, se tu conosci già il gioco, è sicuramente un valore aggiunto. Come fai? Cerchi di... Io farei in questo modo, ma perché sono un fruitore di videogames. Faccio un esempio su tutti. Magari non è calzante. Metal Gear Solid 5. Se chiamassero me per fare quel personaggio lì, saprei già che voce dargli, saprei già che carattere dargli, perché l'ho fatto. E se no devi, come sempre, ascoltare quello che è stato fatto e sperare che chi l'ha fatto l'abbia fatto bene. Ma dubito che chi l'ha fatto l'abbia fatto bene, perché se è vero che io devo incidere su una forma d'onda preesistente, lui ha inciso quello che è venuto prima di me, quindi il doppiatore originale, ha inciso anche lui su un'immagine, su una forma d'onda. Non credo che in sala passino le immagini del videogame. In veste di videogiocatore, quali sono le tue considerazioni in merito alla qualità dell'industria videoludica odierna? L'industria odierna del videogioco non sta tenendo conto di una cosa, che c'è sicuramente un mondo che parla la lingua inglese, che lo parla bene, eccetera, ma c'è un altro mondo che non è da sottovalutare, che è quello francese, che è quello italiano, che è quello cinese, giapponese, che sarebbero ben felici, secondo me, di avere un prodotto fatto bene a sync, con la voce giusta, con le intenzioni giuste. Io non so se è possibile una cosa del genere. Sicuramente, se è possibile doppiare un film, io credo sia possibile doppiare un videogioco doppiandolo dal vivo. Dal vivo intendo potendolo vedere doppiare mentre il gioco sta andando. Sicuramente è più complicato, perché come tu mi insegni ci sono miliardi di possibilità in un videogioco, e alcuni videogiochi, a seconda di quello che fai, succede qualcosa o non succede. In un videogioco tutto fa parte del gioco, anche l'intonazione, anche l'intenzione, anche se una voce è portata o meno. La bellezza del videogioco, di questi ultimi videogiochi, di queste ultime console, è che tu ci entri dentro proprio nelle cose. Puoi uscire da questa magia in un istante, sentendo una battuta sbagliata, un'intonazione sbagliata. E come attore e doppiatore, come reputi la qualità generale del doppiaggio italiano dei videogames? Beh, adesso il videogioco in Italia sta prendendo piede, il doppiaggio del videogioco. C'è una società a Milano, non vorrei sbagliarmi, e una anche a Roma, che cominciano a contattare dei veri doppiatori. Bisognerebbe spendere un po' di più, investire un po' di più su questa cosa e trovare il modo più giusto, perché ci sono alcuni prodotti che stanno migliorando, mentre altri sono assolutamente insentibili. Voci milanesi o anche voci romane che parlano romano, milanese, napoletano, con poca attenzione alla dizione, con poca attenzione alle intonazioni. Un esempio su tutti, ne abbiamo già parlato a te, Carlo, di questa cosa, cioè sentire un Dead Space doppiato da il maestro Dario Argento, che sarà maestro di cinema, maestro di effetti speciali, ma con la voce, come si dice a Roma, non c'è via proprio, nel senso che ha rovinato un prodotto discreto, buono. L'attenzione, secondo me, è che bisognerebbe sensibilizzare le case di produzione a trovare un modo per almeno far vedere all'attore che doppia quel personaggio principale o anche secondario nel videogioco almeno 10 minuti, proprio 10 minuti fisici di questo videogame, in modo tale che uno possa trovare una strada, stabilire quel personaggio che cosa fa, chi è, dove va, cosa potrebbe fare, cosa potrebbe succedere, cosa non potrebbe succedere. Ecco, questo già sarebbe un, invece di trovarsi di fronte a una forma d'onda e a una fotografia o un disegno del personaggio. Secondo te, quanti hanno reale facoltà di valutare nel bene o nel male la qualità del doppiaggio di un videogame? È solo una questione di gusti o serve un'educazione che introduca degli standard? Ma sai, Carlo, come dici tu, ecco, mi piace questa cosa che hai detto, che serve un'educazione standard. Sì, servirebbe un'educazione e una conoscenza del doppiaggio, o comunque di quelli che sono i doppiatori, o comunque di quelle che sono le potenzialità di alcuni attori rispetto ad altri, e questo servirebbe comunque. Ma io credo, e mi sa che non sbaglio su questa cosa, perché qualche forum l'ho letto, ho bazzicato un po' tra, che le persone, soprattutto con l'avvento di questa nuova moda, no? Adesso tutti vogliono fare i doppiatori, tutti quanti ascoltano il doppiaggio, tutti quanti stabiliscono se un attore è stato doppiato bene o male, preferirebbero un doppiatore piuttosto che un altro su un attore importante o su un film importante. La gente è più sensibile a questa cosa, perché il doppiaggio sta assumendo una nuova forma, una nuova, come dire, è visto sotto una nuova luce. Già le polemiche che ci sono, ci saranno sempre, se il film è bello vederlo in lingua originale o no, se il videogame è bello giocarlo in lingua originale oppure no. C'è un'altra visibilità del doppiaggio in questo momento. Secondo me c'è bisogno sicuramente di un'educazione maggiore rispetto a questa cosa, ma attenzione, le persone questa cosa la sentono, e come ti dicevo prima, chi fruisce dei videogiochi lo fa anche per entrare in un videogioco. Cioè, lo scopo del videogioco qual è? È diventare protagonista in quel momento di quella situazione. Quando ci entri dentro col suono. Il suono fa parte del tutto. Non è solamente l'immagine che conta. Per cui se io sono un supereroe e ho la voce da supereroe in cuffia e sento il supereroe che recita da supereroe, quindi mi convince che è un supereroe, quel suono è un valore aggiunto, che insieme alla musica, che insieme alle immagini fanno il tutto. Il videogioco secondo me è veramente un vaso di cristallo, un vaso di cristallo fatto bene dal punto di vista tecnico, ma purtroppo questo problema del doppiaggio è ancora secondo me un neo abbastanza grosso e rilevante del prodotto. Il prodotto deve essere un tutt'uno, 100% di precisione, non solamente precisione di colori, di giocabilità, di scrolling e tutto, anche la voce è importante. E nella riuscita di un buon doppiaggio di un videogame, quanto è importante il budget a disposizione? Quanto pesa il fattore economico? Beh, è chiaro che il compenso economico è importante. Voglio dire, tutti quanti sappiamo che un videogioco costa dai 70 a 75 euro più o meno come cifra base. Ed è chiaro che dietro il costo di questo videogioco, solamente se uno si ferma a guardare quei 20 minuti, 20-25 minuti di scrolling di persone che hanno collaborato a quel gioco, capisci anche perché costa 70 euro. È chiaro che il loro guadagno è poi sui milioni di copie che si vendono del videogioco. Però ci vorrebbe sicuramente un budget più attento al doppiaggio. Perché come sempre, voglio dire, la qualità è legata anche alla quantità economica. Io non dico che le cose debbano essere fatte sempre spendendo molti soldi. Una giusta cifra da mettere in conto per il doppiaggio di un videogioco risolverebbe parecchi problemi. E soprattutto, questa è una cosa che io direi alle case di produzione che si stanno affacciando al doppiaggio del videogaming: chiamate i professionisti, ascoltate le loro voci, fate i provini come si fa nel doppiaggio. Cioè, veramente, non... c'è la tendenza spesso a fare il prodotto per il prodotto. Dice, vabbè, abbiamo preso questo prodotto, l'Ubisoft ci ha detto doppiatelo in italiano perché ci serve in italiano, fate. No, sarebbe bello, e non so se questa cosa viene fatta, se un consulente della Ubisoft venisse in Italia a controllare il doppiaggio di Black Flag, come, è chiaro che non c'è paragone, come aveva fatto Kubrick partecipando personalmente al doppiaggio in italiano. Cioè, è un vostro prodotto. Ora, che l'Italia abbia 55-60 milioni di abitanti rispetto all'America che ce n'ha 200 milioni, questo non cambia, perché quei 60 milioni di persone che acquistano, magari non 60 ma 30 milioni di persone, hanno diritto ad avere un prodotto a tutto tondo, perfetto, preciso e che abbia delle caratteristiche di eccellenza. Alla luce dei fatti, come pensi possa migliorare l'industria del doppiaggio dei videogame? Io una soluzione ce l'avrei, soluzione tra virgolette. Società di persone competenti, amanti del videogioco, persone che giocano ai videogames, che fanno contestualmente anche i tecnici del suono, che riescono ad avere chiaramente, quindi far parte di questa società che doppiano questi prodotti, e stare lì ad ascoltare, a fare il meglio del meglio del meglio. Oppure sarebbe una cosa divertente, per esempio, se qualche società addetta ai lavori, quindi che cura il doppiaggio di alcuni videogames, mettesse dei concorsi in rete. Vota la voce, scegli tra quale persone secondo te potrebbero fare questa cosa, con dei premi, magari con dei premi alla fine del concorso ti regalano un videogame piuttosto che dei soldi o un viaggio da qualche parte. Ci sono molti modi, secondo me, per coinvolgere anche le persone, per invogliarla ad acquistare il prodotto e soprattutto per rendere tutto più vero. La mancanza del videogame è la mancanza di verità. Un gioco è vero quando è vero completamente. Wow, una bella frase a effetto, complimenti. A questo punto manca solo un saluto agli amici di Dietrologia Videoludica. Saluto gli ascoltatori di Dietrologia Videoludica, che è difficilissimo da dire, però l'ho detto. Continuate a seguire questo podcast che lo trovo interessantissimo, e soprattutto quando andate sui siti dei videogames, spammate, dite vogliamo i doppiatori quelli bravi, vogliamo quelli capaci. Cominciate a mandare email alla Ubisoft, alle cose, così qualcosa si muoverà sicuramente. Protestate. Allora, io dico solo una cosa, cioè l'insieme dell'intervista, molto breve, molto concisa, ma secondo me anche abbastanza esplicativa, meriterebbe magari anche alcuni approfondimenti, però io mi concentro sulla parte finale, dove praticamente Alberto Angrisano, non è amico mio, Alberto Angrisano, dice che bisognerebbe investire di più. Questo è forse magari l'ho fatta già prima la riflessione, e quindi la riflessione la faccio diventare domanda e la rigiro a Carlo. Investire di più, perché chiaramente un doppiaggio più professionale comunque costa di più rispetto agli investimenti che attualmente vengono fatti per i videogiochi. Sì, lui poneva appunto l'accento sul fattore economico. A proposito, io ci tengo, insomma, saluto Alberto e lo ringrazio. Lo ringraziamo assolutamente. Lo ringraziamo tutti per la sua appassionata partecipazione. Sì, veramente. È stato veramente un tesoro. Tra l'altro, lui, come avete sentito, è anche abbastanza competente in merito di videogame. È un giocatore a tutti gli effetti, per cui chi meglio di lui poteva esprimere un parere, diciamo, all'occorrenza. E tornando alla tua domanda, sì, sicuramente sì, questo si ricollega anche un po' al discorso che facevamo all'inizio della puntata. E qual è la differenza fra una lavorazione svolta in America e in America come in Giappone, una lavorazione svolta in Italia per la localizzazione di un videogame? Che qui in Italia la localizzazione di un videogame è vista come una lavorazione un po' di serie B, se non addirittura di serie C, vuoi per tutta la questione delle invalidanti logistiche di cui sopra, che ormai abbiamo fatto un discreto panorama, e per cui ovviamente i compensi sono adeguati a quella che è appunto la tipologia di lavorazione. Sì, molti colleghi doppiatori, non miei, suoi, si rifiutano di prendere parte a queste lavorazioni, perché sanno che c'è tantissimo da fare e non c'è un compenso adeguato, non c'è neanche, diciamo, tra virgolette, non è neanche una cosa particolarmente stimolante, no, per un doppiatore fare un videogame. Non vedi niente, senti solamente, c'hai tutte delle frasi slegate da dire, senza molto spesso neanche un contesto, esatto, seguendo un contesto, per cui alla fine, insomma, capite bene che la tipologia di lavorazione non è particolarmente ambita per i doppiatori, perlomeno di un certo livello. Per cui sì, secondo me si dovrebbe pensare di investire di più. Probabilmente ci sarebbero anche i fondi per farlo, perché immaginate magari un titolo come Call of Duty, i soldi che può guadagnare solo al day one, e quindi, insomma, sono convinto che comunque quelli che sono i costi di sviluppo del gioco vengono ampiamente coperti in fase di lancio del gioco, per cui probabilmente un maggiore investimento in questo senso sulla localizzazione aiuterebbe probabilmente a stimolare di più e andare anche un po' a sollevare un po' le sorti, no, di artistiche, insomma, del il problema, Carlo, che però adesso giochi come Call of Duty si comprano lo stesso a prescindere dal doppiaggio, sì, cioè, potrebbero mettere anche in aramaico, sì, cioè tranquillamente. No, secondo me il grande pregio sta sul fatto, anzi il grande, la grande speranza sta nel fatto che invece, al di là dei giochi tradizionali, sta nascendo questa nuova tendenza della narrativa interattiva, no? Dei giochi un po' più recitati, diciamo, ecco, sì, più cinematografici, no? Quindi più vicini a opere televisive o cinematografiche, come abbiamo detto magari anche l'altra volta, anche per esigenze di industria, perché comunque si amplia ovviamente il pubblico e di conseguenza si ammorbidisce anche la parte videoludica, non per tutto il mercato videoludico, però sicuramente si aprirà anche questo filone, il quale ovviamente imporrà sicuramente delle scelte anche dal punto di vista economico e recitativo, sicuramente di maggiore livello, che poi nel mondo dei videogiochi, insomma, due punte di primo piano ci sono state, insomma, due capatine che è Luca Ward e Pino Insegno, appunto, uno su Splinter Cell, che insomma è probabilmente stata un'eccezione, però un'eccezione insomma coi controcoglioni, diciamo, c'è la verità, Carlo. Sì, beh, ma non solo, ma io penso anche, per esempio, ecco, rimanendo nell'ambito di Call of Duty, anche se appunto, come dite voi, non è proprio l'esempio fulgido, insomma, del gioco comprato per la sua parte narrativa, insomma, però c'è su Call of Duty, non mi ricordo che capitolo, mi sembra l'ultimo, c'era addirittura Giancarlo Giannini che faceva un personaggio, quindi... voglio dire, insomma, che ne so, Francesco Pannofino su Assassin's Creed. È vero, bravo, cazzarola, sai. Quindi, insomma, voglio dire, mica sono... È vero, hai ragione. Per cui no, da questo punto di vista io vedo una discreta, un discreto avvicinamento a quelle che sono le vette appunto qualitative del doppiaggio dei film, che ovviamente rimane il top, se vogliamo, di gamma del doppiaggio italiano. Si sta cercando lentamente con tutte le possibilità del caso di avvicinarsi a quella tipologia di lavorazione lì. Io lo spero, insomma, è una cosa bella, sarebbe veramente una cosa molto molto che lascia, insomma, presagire delle ottime opere, poi, insomma, a livello doppiaggio, che poi non c'entra niente, ma in realtà la Pannofino, che è un doppiatore, insomma, veramente coi contro, lo è da anni, insomma, ha una voce anche molto particolare, quindi questo sicuramente lo ha avvantaggiato, e anche un'espressività veramente da grande scuola. Il fatto di averlo visto, secondo me, un po', cioè di aver visto il personaggio di Boris, secondo me da quel punto di vista un po' lo penalizza, no? Nel senso che adesso senti la voce di Pannofino, che chiaramente con l'interpretazione che fa lui nei doppiaggi, quella voce è molto graffiante, no? Molto particolare, e a me mi viene in mente... mi viene in mente René Ferretti, purtroppo, sì, questo è un po' la... o George Clooney, che è la, insomma, infatti è quello il problema, che secondo me è il destino dei doppiatori, che nel momento in cui, vabbè, fino a che fanno teatro, e molti fanno teatro, vabbè, ok, cioè, nel senso, ma quando entrano in televisione e quando tu li visualizzi con un personaggio, secondo me spezzano un po' la magia della voce, capito? Che è la voce, capito? Non è il... vabbè, pure Amendola, insomma, faceva... cioè, però, insomma, alla fine Rocky era Rocky, dai. Sì, vabbè, però Amendola, lo sai che... Allora, Amendola per me è stato un grande, cioè una grandissima voce. Ha fatto De Niro, mi pare, no? Sì, tutti facevano. Però erano tutti uguali. Cioè, nel senso, eravamo Amendola, capito? Quindi Amendola. Invece. E René Ferretti è una macchia, ok? Quindi è una macchietta. Quindi è. Cioè, dai, cazzo! A cazzo di cazzo! Cioè, capito? Tu sei lì e quando tu senti lui, che ne so, adesso se io penso a George Clooney, mi viene in mente René Ferretti, cioè non si può fare una cosa del genere, capito? Cioè, facciamo tutto a cazzo di cara! Dai! E il personaggio, me lo devi lasciare, nah, capito? Sì. Apri tutto! Comunque il pezzo più bello è Maestro. Ma come si finisce a fare come si finisce da Macbeth agli Occhi del Cuore? Perché vedi, ragazzo, tra Macbeth e gli Occhi del Cuore c'è star muto. E lì grande saggezza, forse una delle più belle cose che siano state fatte in Italia le prime due stagioni, poi dopo il resto no, anche la terza vabbè. Ma comunque torniamo al doppiaggio. E di qualcosa anche tu, Stefano, ogni tanto. Io ho appena detto torniamo al doppiaggio. Ok. Vabbè, no, tu in Assassin's Creed Pannofino non l'hai sentito? No, allora io non l'ho sentito tendenzialmente, forse, ecco, mi perderò spesso i doppiatori italiani. Però dipende un po'. Ecco, ad esempio, quello è vero, la qualità dei... Sto iniziando a parlare come Razzi, comunque, se ci fate caso. Comunque, Stefano, tu sappi che ogni volta che senti un un gioco in lingua originale, un giovane doppiatore muore. No, ecco, uno mi dispiace per questo. È no, come comunque... ieri, come l'altro giorno, Civati, che ha detto che ogni volta che Renzi parla di riforme muore un costituzionalista. Sì, esatto. Fantastico. No, comunque il doppiatore originale è bello, ecco, è bello. No, mi dispiace, ecco, di Assassin's Creed, dici de Black Flag? No, ecco, Black Flag non l'ho giocato in nessuna versione. No, lì ancora, c'è quindi... Pannofino, su quello c'è Pannofino. Ok, no, ma a me, ecco, io supporto in pieno il lavoro dei doppiatori, soprattutto per quello dei videogiochi. E, ripeto, questa mia deformità, come l'ha definita Marco Walti, che è un po' simile ai nani che ti combattono addosso. Sì, ma quella non è una deformità, quella è una richiesta. È un pregio. È un pregio, anzi. Quindi, ecco, da questo punto di vista mi dispiace e reputo appunto i doppiatori italiani tra i migliori al mondo, penso, in generale. Però, ecco, su per quanto riguarda l'intervista di Alberto, ma chiamiamolo Alberto, ormai tanto siamo amici, no? Tanto. Sì, sì. Beh, comunque, cioè, al di là di tutto, io non lo conosco, Carlo lo conosce, sono amici, tutto quanto. Cioè, il fatto di essersi anche messo a disposizione, cioè, veramente tanto de cappello, perché tanti, io non lo so, perché non conosco l'ambiente, insomma, magari tanti avrebbero detto anche ma Chittese, insomma, no? Ma guarda, c'è gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita, che se gli chiedi Chittese è uguale, dice, sì, certo. Esatto, cioè, a confronto, cioè, sono persone che qualcosa di bello l'hanno fatto, che sono più disponibili di tanta gente che pensa di aver fatto qualcosa. Io tendo sempre a riconoscere, a ringraziare comunque, perché sì, non è mai, io non do mai niente per scontato, e comunque chi fa un gesto che lo fa perché gli piace o che lo fa perché comunque è gentile, per qualsiasi motivo lo fa, comunque è un gesto in più che ha fatto nei tuoi confronti e che quindi merita sempre rispetto e ringraziamento, insomma. Quindi vabbè, poi comunque basta, perché se no sembra che stiamo a fare le leccate de vacca, ma comunque insomma in generale. Tu, ecco, su che cosa volevi puntare l'attenzione tu invece? No, del discorso dei vari discorsi di Alberto, ecco, quello sicuramente è quello che mi ha colpito, è quello che dice lui per quanto riguarda i compensi, quello di cui stavamo parlando prima, che è totalmente insensata come cosa, cioè come è possibile che a fronte di milioni e milioni di euro, dollari, scegliete la valuta che volete, e venga sempre dato così poco, e questo non permette neanche di creare il business alla fine, perché se si inizia ad aumentare di livello ci sono più richieste. Questa cosa viene fatta un po' adesso, ma viene fatta, mi sembra di capire, solo con le grosse produzioni mainstream, cioè quelle, tolto Call of Duty, ecco, che facciamo Assassin's Creed, ecco, che Call of Duty davvero penso che il doppiaggio sia quasi super marginale, anche se in Ghost non è manco malaccio, nel senso, no, in Ghost c'è un po' di più, cioè un po', cioè, insomma, non è male. Sì, no, no, pensavo la canzone Ghost, no, in Ghost c'è, no, c'è la canzone sui fantasmi, ma date, vabbè, dai, continua. In giochi come Assassin's Creed, dove il dialogo ha una componente decisamente più, insomma, importante all'interno del funzionamento del tutto, adesso sembra che ci sia una nuova, cioè un minimo di presa di coscienza e di interesse. No, vabbè, lo riconosce anche lui, no? Lo dice anche, insomma, che comunque c'è un innalzamento generale, no? Penso del livello. Sì, ma quello che critico io è che questo viene fatto solo con, ovviamente, cioè non è per colpa dei doppiatori, è per colpa di chi ci mette i soldi, che non sono i doppiatori, cioè viene fatto solo con produzioni grosse, molto grosse, non viene fatto con tutti i videogiochi che vengono doppiati, no, vabbè, cioè, per creare una qualità alta nel doppiaggio, cioè, ma basterebbe anche solo i giochi di punta, perché se tu pensi a quanto è costato, che ne so, un gioco come GTA 5, è vero che Rockstar non fa doppiaggio per una scelta proprio interna, politica loro, sì, e, sì, e sì, che può anche essere condivisibile, come dicevamo prima, una loro deformità. Però, però diciamo che insomma, se tu senti, ecco, una persona come Angrisano che non è solo un doppiatore, quindi è esercitato a sentire determinate cose, ma è anche un videogiocatore, lui dice, cioè nel senso, incitare, no, la gente a chiedere maggiore qualità. Perché? Perché comunque a lui da videogiocatore, pure a lui da videogiocatore e da esperto, quindi con questa doppia funzione, chiaramente. Perché pure lui c'ha la deformità. C'ha la deformità, a lui gli farebbe piacere sicuramente sentire qualcosa che oltre magari gli farebbe anche piacere partecipare, no? Perché come dice lui, se io sono appassionato, magari una cosa la faccio anche con entusiasmo, no? Nel senso, sarebbe fico per me magari fa, che ne so, un protagonista di un videogioco che mi è piaciuto particolarmente, o partecipare, che ne so, al lavoro di un Metal Gear, per dite, no? Penso che chi ha fatto parte del mondo dei videogiochi entra magari all'interno di determinati meccanismi e essere anche fico, anche se poi dice vabbè, questi sono doppiatori che hanno doppiato Gesù Cristo, cioè nel senso, sai che cazzo gliene frega. E invece secondo me comunque, che ne sai, che ne sai. No, ma comunque anche un'industria in più che gli si apre, no? Nel senso, comunque ulteriori opportunità anche di lavoro per professionisti. No, ma una domanda per Carlo, ma nell'esempio, nel caso di appunto di Alberto Angrisano, mi stanno partendo tutto, vabbè, niente, lasciamo stare. C'è modo nel suo caso, nel caso di altri, che uno possa scegliere a che cosa lavorare? Ad esempio, io doppiatore vorrei tanto doppiare, lui fa, appunto, cita Metal Gear Solid 5, io vorrei doppiare Metal Gear Solid 5, com'è che viene scelto il doppiatore per un determinato videogioco, ad esempio, cioè in base a adesso in Italia, appunto, io Stefano Biggio doppiatore vorrei tanto doppiare Metal Gear Solid 5, come funziona? Te lo potrebbero far fare, attenzione. Sicuramente, mi fanno fare la voce che dice non è escluso. Snake! Te vanno a fare ridere. Sì. Okay, ti vanno a fare Raiden, Ryzen, Raiden, come si chiama? Raiden. La risposta è mi piacerebbe saperlo, cioè so che comunque le lavorazioni cazzo, allora vero, sei uno qui, non sei una cippa. Sono venuto impreparato, neanche cioè, non conoscevo Dassi, non sai niente. No, le lavorazioni vengono assegnate dal cliente a una società di doppiaggio che può essere a Roma, a Milano, o possono spesso avvenire, insomma, lavorazioni ibride come nel caso appunto di Call of Duty o nel caso di Heavy Rain, nel caso di Battlefield, che voi, è stato fatto un po', non ne ho idea, non so sinceramente. Lo diceva Alex Racuglia una volta, che lui ovviamente ha partecipato, diciamo, ad alcune localizzazioni dei videogiochi, quindi per cui, e poi la società stessa che deciderà, insomma, quelli che saranno i convocati per i provini e compagnia, quando poi i provini vengono fatti. A volte comunque si parte per una richiesta e si sceglie una voce indipendentemente dall'averla provata sul personaggio, no, in base a quelle che sono magari anche le disponibilità degli attori e via dicendo. Per cui non è che non c'è una regola, anche in questo senso c'è anche un po' di confusione fra virgolette nell'industria, e tuttavia adesso si stanno settando appunto delle linee guida più nette, per cui se il personaggio che ha doppiato Claudio Moneta sul capitolo 1 o il capitolo 2 verrà doppiato appunto lo stesso personaggio da Claudio Moneta, o cosa che non è sempre Renzo. Stata poi sta cosa, cosa che non è sempre stata, proprio nel caso di Claudio Moneta che sul Mass Effect 2 vabbè, lì però c'era un altro motivo, nel senso. Sì vabbè, lì poi i motivi sono, possono essere, ripeto, molteplici, della possibilità o no dell'indisponibilità o meno dell'attore. Però sì, in altri casi comunque è successo che magari non c'era continuità nel doppiaggio. Per cui non è che c'è una regola su cui, cioè, a volte è una regola della scelta di una voce su come? Cioè come vengono scelti, se, o se il doppiatore ha modo di influenzare la cosa. magari il doppiatore manco lo sa, cioè che hanno preso la commissione. Dipende, beh, questo è esatto, questo magari è una competenza che io direttamente ovviamente non ho. Mm. Però so che comunque, ripeto, si partono a volte da delle richieste proprio dei clienti, del tipo voglio questa voce su questo protagonista, voglio questa voce su questo personaggio. Al facciamo i provini, prendiamo 3-4 persone, le proviamo e vediamo quello che suona meglio, mandiamo tutto in America e scelgono loro quella che è la voce migliore. Mm. Per dire, cioè, sì, sì, sì, sì, no. Dipende, insomma, okay. Non c'è una regola in questo senso, non c'è una regola scritta e... okay. Per cui questo è quanto. Bon, io penso che ma io lascerei anche qualche riflessione aperta e vedere poi se il pubblico, anche il pubblico, vabbè, gli ascoltatori, gli amici ascoltatori che poi magari vorranno farci delle domande o delle osservazioni o magari anche delle critiche o delle mancanze all'interno di quello che magari avremmo potuto dire e non abbiamo detto, insomma, siamo anche disposti e più che ben volentieri anche a tornarci sull'argomento, magari approfondendolo, ad agganciandolo ad altri temi che possono essere comunque compatibili con questo tipo di discorso, perché poi c'è anche un aspetto, insomma, del sound design dei giochi che sarebbe bello una volta magari, Carlo, trattare, a prescindere anche dal doppiaggio, no? Nel senso, magari sì, volentieri, la lavorazione magari che c'è anche lì, l'analogia tra cinema, televisione e videogiochi, che penso, insomma, che il processo forse magari in quel caso è un po' più similare fra di loro, però ecco, magari non tutti conoscono e sarebbe bello magari tornare a parlarne, insomma, che ne dite, no? Sì. Vedo Marco, si può anche fare. Vedo Marco sempre con il suo entusiasmo, insomma, sempre da... la bavetta che sì, facciamo, vedo voi. Allora, un saluto a tutti gli amici di Dietrologia Videoludica da Sandro Acerbo. Continuate a seguirci, mi raccomando. E a questo punto, con l'autorizzazione, insomma, che chiedo al nostro capitano per questa sera, che è Carlo, insomma, penso che possiamo chiudere anche questo mega argomento e passare. Aspetta, ho le cuffie, Biggio che mi dice che ha un'ultima ora. Passiamo sì. Allora all'anonima videoludica. Bene, allora sì, un'ultima ora. Allora, la mia anonima videoludica è basata su una giocata in anteprima al nuovo TIFF o TF o TF o TFR, chiamatelo come volete. E... Ladro. Esatto, ladro. Il gioco, il simpatico reboot del gioco ladro, presenta... Ma stavo a fare una battuta, ragazzi, che mi sono fermato un tempo, guarda. No, beh, falla, scusa. No, non è che no, no, meglio di no. È il gioco ufficiale dei Forze Italia, insomma. No, zitto. Ci chiudono. Una macettata. Ovviamente mi assumo le responsabilità. Sì, guarda. Loro sono tutti contrari a questa cosa che ho detto. Sì, guarda, io da grande lettore. Comunque, devo dire che il gioco presenta delle particolarità. Questa forse per la prima volta è un'anteprima che posso fare veramente. Non sono cazzate che mi invento mentre sono in bagno. No, ma lo sappiamo. Questa volta è vero. Cioè, il gioco, in realtà, questo gioco qui, per quanto sia fatto bene, stealth, eccetera, eccetera, è un gioco che, a proposito di doppiaggio, ecco, sono due particolarità. Una riguarda il doppiaggio. Questa particolarità è che nominano spesso le guardie, le persone che ci sono in giro, la sbobba. Cioè, letteralmente, la sbobba, quella da mangiare, ok? Il problema è questo. È capitato di sentire queste frasi di sfuggita, perché tu magari sei nascosto nel gioco, oppure hai il volume un po' basso. E se uno le sente in maniera distratta, sente più o meno questo, dice... Ho ancora in bocca tutto il sapore dello sbobbo. No. Cioè, non sto scherzando. Preparatevi. No, dai, lo vado a cercare. È così, cioè, una puntata. No, cioè, è un problema di doppiaggio, tra l'altro, che mi è venuto in mente che ci sta anche bene quella puntata. Ed è vero, cioè, ascoltatelo doppiato ed è così. La traduzione è giusta, non è un colpa, diciamo, del traduttore, dell'adattamento, è tutto perfetto. Il problema è che se uno lo sente di sfuggita, può trarre in inganno, perché uno sente proprio. Oppure dice: chissà se qua in giro c'è, qua, c'è ancora quel venditore di sborro. Cioè, io vi prego. Mi state facendo morire. No, io vi prego, vi scongiuro No, ma adesso subito proprio metto alla caccia dei primi filmati di gameplay. Cioè, abbassate un po' il volume. C'è la video recensione su. Ah, non è il negozio. Io per me leggevo ogni tanto anteprima, pensavo che dovesse uscire fra un anno, invece. No, esce martedì, mi pare. Peccato che il mio computer non lo regga. No, questo è tosto, questo è next gen, mica. No, c'è anche old gen comunque, se volete. Se vuoi c'è anche old gen, vedi Marco. O anche PC. E quindi partecipate alla famosa campagna Carciarcù, dovete donare soldi per fare sì che Marco si possa comprare il computer. E andiamo all'ultima parte. No, aspetta. No. La seconda parte della. Dovevo dire parte. L'ultima scusa, cosa. Scusa. Ecco. Praticamente il gioco, tra l'altro, il 90% del gioco è un cleptomane cronico. Si risveglia dopo un anno di coma e la prima cosa che fa è mettersi a rubare e ruba a dei narcolettici. Perché se voi andate in giro nel gioco, le guardie al 90% si siedono, a un certo punto si siedono in una sedia e dormono. Così, ma deve essere una palla la vita da guardia, eh. Sì, ma porca puttana, cioè, dico, sai che c'è un cleptomane in giro, il re dei cleptomani, e tutti dicono: ah, sì, tutto ok. Ti siedi su una sedia, dormi russi dopo mezzo secondo. Cioè, è un mondo malato quello di Tiff. Oltre ai problemi della sbobba, che vabbè, quello è un'altra questione. Problemi di sbobba. Però, problemi di sbobba. Problemi di sbobba. No, allucinante. E niente, quindi volevo solo dirvi questo. A proposito del doppiaggio, a proposito di Tiff, che comunque rimane tutto sommato un bel gioco. Questa cosa ha voluto Carlo. Comunque sei sempre sul pezzo, stai. Sì, incredibile. Questa è proprio una cosa da anonima videoludica. È sul pezzo di sbobba, diciamo. Vabbè, non facciamo ulteriori. No, posso andare alla parte finale? Fatti. Grazie. Scusi, prego. Cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Videoludica. Vabbè, va. È uguale. Benissimo, allora, parte finale di questa intensa e interessante puntata. Io spero veramente che poi, insomma, commentiate numerosi, non come è stato fatto recentemente, perché non abbiamo commenti né dalla pagina Facebook né da GPU né dal sito né da però Twitter né negli insulti, per cui. Però abbiamo un sacco di commenti sui video, perché oramai i video che stiamo facendo invece quelli stanno attirando molto molto molto l'attenzione. Allora, prima di tutto, Carlo, prima di ringraziarti e poi di andare ai saluti, insomma, ringraziamo anche, insomma, tutte le persone che hanno partecipato direttamente e indirettamente a questa puntata, compresi, insomma, i doppiatori che ci hanno fatto questo enorme, insomma, omaggio di fare questi piccoli stacchetti che abbiamo sentito durante l'episodio, e ti lascio l'onore in merito. Sì, io ringrazio di nuovo Alberto Angrisano, che, insomma, ha partecipato appunto attivamente con molta passione sia all'intervista che alla realizzazione del teaser, appunto, della puntata che avete sentito su un po' in giro nei vari podcast di IPN. E in più ci tengo a ringraziare anche Massimo Corvo, Cristian Iansante, Sandro Acerbo, Barbara De Bortoli e Francesco Cavuoto, che si sono prestati, appunto, hanno prestato la loro voce gentilmente, e anche Davide Marze, scusate, per quelli che sono gli intermezzi. Ringrazio veramente tutti per la disponibilità, insomma, e insomma, mi auguro che sia stata una puntata interessante anche per chi ci ascolta, insomma, oltre che per voi. Spero di magari in qualche modo aver aperto un po' di porte, di aver stimolato un po' di curiosità. Ci aspettiamo, come diceva Simone, i vostri commenti, le vostre osservazioni, o se volete anche, io sono qui, siamo tutti qui, insomma, le vostre domande o dubbi eventuali sull'argomento doppiaggio. E niente, quindi io che faccio? Saluto? Me ne vado? No, aspetta, no, prima del saluto. No, che poi, tra l'altro, cioè, non potete che per me. Sentimmo Orpheus che dice siete in dietrologia videoludica, roba del genere, per me era, cioè basta, per me potevamo chiudere, cioè nel senso esatto. È l'apice dell'orgasmo, nel senso per chi è stato un fan poi ovviamente di Matrix, chiaramente il primo. Sono stati scelti accuratamente. No, ma infatti cioè grande, ci avrai veramente il nostro rispetto ad libitum, che non so che significa, però mi piaceva. Allora, prima dei saluti, i nostri riferimenti che sono sempre i soliti, quindi www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito. Dietrologia Videoludica la trovate su Google Plus, Facebook e Twitter, dove ci sono ovviamente questi video di commentari che facciamo, insomma, analizzando i giochi sempre secondo il nostro stile, che è stile peculiare di Dietrologia Videoludica. Ci piace il fatto che insomma crescono insomma anche gli iscritti, e vuol dire che insomma lo stile piace, e insomma piano piano, insomma, so soddisfazione, non siamo quelli che miriamo ai 150 milioni di visualizzazioni, non ce ne frega niente, a noi ci piace fare le cose come le facciamo noi, se vi piacciono bene, se non vi piacciono arrivederci e grazie. Il Twitter dietrologia videoludo, e la mail dietrologia videoludica @gmail.com. perfetto, detto questo vi ringraziamo, adesso facciamo fare il giro di saluti a Marco. Cioè, lo faccio io per tutti? No, vai, saluta tu e poi i tuoi riferimenti, dove ti possono trovare. Io sono rintracciabile su Boba, appunto. Il distruggetto, su tiff.com, su Gplus, che si voglia, sono sempre me stesso. Marco Gualdi, distruggitore, sì, Marco Gualdi o il distruggitore. Ma poi perché dovete cercarlo? Perché mi dovete cercare? Semmai vi cerco io, se proprio mi serve vi cerco io. E poi basta, insomma, c'è il nostro gruppo oggi su Steam, su Steam, che se volete oramai ci potete raggiungere dappertutto, insomma, quindi. Se non ci raggiungete vi raggiungeremo noi, è sempre correte veloci e niente, saluto a tutti e sbobba per tutti. Ok, e io ovviamente anch'io vi saluto a tutti, è inutile che insomma vi dico dove potete trovarmi, perché anche se negli ultimi podcast sono mancato un po' di qua e di là, sono un po' dappertutto, sono il Pippo Baudo del podcasting di IPN, e poi vabbè, mi cercate Simone Pizzi anche su Facebook tranquillamente, o Pizzi Simone su Twitter se mi volete insomma addare, poi chiaramente insomma sui video di dietrologia videoludica. E mi raccomando, ascoltate anche Archeologia Informatica, Archeologia Videoludica, che sono delle trasmissioni che stanno crescendo moltissimo, e anche lì insomma siamo veramente molto soddisfatti, e poi ci hanno fatto bei lanci per questa puntata, perché hanno comunque contribuito alla distribuzione del teaser di cui parlava prima Carlo, e quindi anche io vi saluto Stefano, e poi lasciamo l'onore della chiusura insomma a Carlo, che mi sembra anche giusto. Io vi ringrazio Carlo e doppiatori vari ed eventuali, che soprattutto colui che ci ha aiutato, che ha contribuito, di cui già non ti ricordi il nome. Io, come si chiama? Carlo Buriga, no, l'altro amico, Pannofino, chi è che c'ha? Alberto Pannofino, è imbarazzante, no? Anglisano, il signor Anglisano, chiamiamolo, invece che, okay. Il signor Anglisano che ci ha aiutato, che ha contribuito appunto a questa intervista, a Carlo che l'ha realizzata, e voi che ci avete ascoltato sino a qui, sentendo i miei deliri come questi dati dall'acqua, tra l'altro, comunque, esatto. Vabbè. Piccoli dettagli. Ritorna alla droga, tranquillamente. Detto ciò, esatto, decido finalmente di tornare alla droga. Mi trovate su Retrocast, il podcast della droga, dove si parla di droga, più non posso, e di sbobba. Ricordatevi di giocare a Thief, questa è la maledizione che avrete, che purtroppo è un peccato, perché era cominciata bene questa puntata e è finita in sbobba, quindi fatemi un po'. C'è una delle più belle e interessanti puntate della storia di VL, proprio andata a puttana. Ragazzi, no, non è andata a puttana. Io ho fatto un appunto sul doppiaggio di Tiff. Purtroppo il doppiaggio di Tiff è questo. Io non ci posso fare niente, ragazzi. Quindi io ho fatto un appunto serio. E questo, cioè, mi dispiace, ragazzi. Okay. So che è difficile, ma. Dobbiamo farcene una ragione. Comunque, adesso che ci gioco voglio prestarci attenzione. Mi raccomando, perché è una cosa stupenda. Perché quando succede non te ne rendi conto. Registra. Sì, perché all'inizio tu direi no, devo aver sentito male. E allora poi... ricarichi, perché no, tu dici ho sentito male, poi la risenti di nuovo e dici no aspetta, poi allora ti metti dietro la guardia sì che non parla e prima o poi dirà qualche frase simile con la sbobba. Quindi esatto, quindi la mia maledizione è questa: non potrete più giocare a TIFF non è più un gioco serio per me purtroppo. Certo, indubbiamente, o se no giocatelo in inglese, insomma. No, giocatelo in inglese a questo punto, così eviterete. Quindi dicono capshot lì direttamente. No, oh mio Dio. No, direi still have in my mouth. Vabbè, io direi che allora vai Carlo, a te l'onore, ti vai tu con i tuoi riferimenti, i tuoi saluti e chiudi anche tu tranquillamente la trasmissione. Okay. Allora, a parte i miei ringraziamenti, che rinnovo insomma a tutti quelli che ci hanno ascoltato e hanno avuto la pazienza di farlo fino adesso, sicuramente insomma non siete, siete nel mio cuore per sempre se siete arrivati fino a qui. E i miei contatti, io sono su Facebook, in più ho un paio di blog, carlomix.blogspot.it, se volete sentire un po' di miei lavori di sound design e anche di speakeraggio, se vogliamo doppiaggio che ho fatto negli anni. E carlomix.tumblr.com, una raccolta di foto che ho fatto e che faccio e che metto su ogni tanto. Su Twitter ci sono e non ci sono, comunque se volete sono lì, carlomix_79, e nulla, io sono servito. Ragazzi, io non c'ho più voce, è bene che voi lo sappiate, quindi l'ho usata su tutta per questa puntata, quindi insomma da domani comincerà il mio periodo di mutismo proprio, perché sono esausto. Però saluto tutti, insomma è stata una bella soddisfazione, devo dire, fare questa puntata. E ovviamente dimenticavo, mica da poco, insomma mi trovate anche su Dietrologia Videoludica adesso. Stavo aspettando al bar, sì sì, eravamo lì, sono anche lì, ormai è ufficiale, quindi sono anche molto orgoglioso di questa cosa. Sì, molto orgoglioso. Se volete in più buttateci un occhio, insomma ogni tanto recensisco per Mondo Xbox e Mondo Play, fate hobbies insomma, quindi insomma leggetemi, guardatemi, ascoltatemi, fate quello che volete insomma, quindi, Perfetto. Buona sbobba a tutti. Ciao a tutti. No, mai rubato la botta finale. Ciao a tutti. Ciao. Buona ciao, a tutti. Ciao. A presto. Ciao. Ciao amici. Welcome to Geronto Gamer. Ehi Joe, presto, da questa parte. Sì Anna, arrivo. Oh mio Dio Joe, sparo in testa, in testa. Non riesco a prendere la mira, ho ancora pezzi di cervello negli occhi. Oh no Joe, ci sono addosso. No Simo, sto gioco c'è qualcosa che non va. Non lo so. Sì, è vero. Non mi quadra. Avanti, Anna. Ci siamo quasi. Ancora un passo e saremo fuori da questo incubo. Joe, ho paura. Non so se riesco a saltare io. Coraggio, Anna. Non puoi mollare proprio ora. Non ce la faccio, Joe. Non ci riesco a saltare! Anna, forza! È solo una pozzanghera! Hai affrontato di peggio! E guarda ste cazzin! Ma te parano un po' plasticose i movimenti dei personaggi? Sì! Mi pare pure a me! C'è qualcosa che non mi torna! Guarda, Anna! Finalmente l'orizzonte! Che panorama! Hai ragione, Joe. Tutte queste disavventure sono forse valsa la pena. Ma pure la grafica, non lo so, non mi convince. Guarda, le luci sono finte, non ci siamo proprio. No, Anna, non accendere la sigaretta. Oh mio Dio, si è attivato il sensore termico della testata nucleare. Tutto è perduto, Anna. Da ragazzo ho frequentato un corso di artificiere, so come disinnescare questo ordigno.